La zanzara. Estate. Con Alessio Maurizi. 18 e 9 minuti, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati, appuntamento estivo dalle 18:10 alle 20:30 in attesa dei vostri interventi all'800 24 00 24, il numero verde che conoscete a memoria per intervenire, 349 238 6666 per i vostri sms. Siamo anche su Facebook, cominciamo con i titoli di Sky TG24. Nuoto bronzo della Grimaldi, la leggenda idem si ferma a 3 decimi dal podio. E stasera Londra si ferma per i 200 metri di Bolt, storica finale in staffetta per Pistorius. Aziende italiane a rischio insolvenza, allarme della BCE che si prepara ad agire. Incidente stradale nel Frusinate, morti pilota e navigatore di rally. L'Italia sfregiata dai roghi dolosi, paura a Roma per un nuovo incendio a Monte Mario. Fiumicino, una lunga attesa che finisce in rissa, Blu Panorama sostituisce il pilota ferito. Siria Assad nomina nuovo premier, la battaglia in furia nel cuore di Aleppo. Maledizione White House, l'ex marito in coma per overdose di alcol e droga. C'è il cantiere antidebito per la dismissione del patrimonio immobiliare. Oggi, questa mattina, il segretario del PDL Alfano ha detto niente svendite, ma noi siamo per la creazione di un fondo immobiliare. Io personalmente non ho capito come funziona il fondo immobiliare che emette obbligazioni, mi sembra una cosa contorta, ne ha parlato anche Focus Economia, interpellando esperti economisti, ma insomma il tema è quello che da qualche parte li dobbiamo prendere questi soldi. La proposta di Alfano è questa. Quindi noi siamo per fare non delle svendite, neanche delle finte privatizzazioni come nei primi anni 90. Noi vogliamo costituire un fondo dentro il quale mettere l'enorme patrimonio immobiliare italiano e fare sì che quel fondo possa emettere obbligazioni, possa quindi emettere dei titoli molto quotati, cioè nel senso credibili, con una tripla A, diciamo, no? Capaci di avere una buona garanzia, di avere una forte affidabilità sui mercati, in modo tale che questi soldi possano servire a diminuire il debito pubblico italiano. Precisiamo subito, naturalmente il fatto che io non abbia capito come funziona il fondo immobiliare non vuol dire niente, vuol dire solo che io non lo so, perché sono ignorante in questa materia, e sono materie tecniche, complesse, quindi insomma poi quando si va a spiegarle ci si perde nei cavilli. Però il tema è quello della vendita, in qualche modo, del patrimonio pubblico. Allora, Alfano Pensiero, sentiamo per esempio come alla domanda perché lui, segretario del PDL, che sostiene il governo Monti, non ha votato l'ultima fiducia a Monti. Non c'era una ragione politica precisa. Io, per esempio, ho partecipato al funerale del mio più caro professore del liceo e quindi ho ritenuto prevalente un lutto per me intimo rispetto ad una scontata votazione. Ma insomma, se voi a lavoro non andate perché andate al funerale del vostro professore del liceo, secondo me vi dicono no, vieni a lavorare, dove vai? Questo almeno a casa mia, Alfano di mestiere fa quello, fa il parlamentare, però si sa che i parlamentari fanno un po' come gli pare, sono messaggi trasversali forse, anche questi. E poi, a proposito della querela che si era aperta con Monti sulla questione dello spread, i 1200 punti che ci sarebbero adesso di spread se ci fosse Berlusconi al governo, insomma si sono arrabbiati moltissimo quelli del PDL, il caso è chiuso, dice Alfano. Il Wall Street Journal ha pronunciato, ha scritto parole attribuendole al presidente Monti che ci sono apparse un po' infelici. Il presidente Monti ha chiamato il presidente Berlusconi rammaricandosi ed esprimendo il proprio dispiacere, alcuni giornali hanno giustamente parlato anche di scuse, per noi il caso è chiuso anche perché noi siamo gente positiva. A me Alfano sta simpatico, ha questo modo di esprimersi con questo accento un po' siciliano, sembra che parli sempre un avvocato, quale lui è. e raggiunge secondo me un paio di vette. Qua per esempio dice: stiamo insistendo perché Berlusconi si candidi. Ma come, non ci capiamo più nulla? Prima era Berlusconi che dice mi stanno chiamando, però non mi si vede di più se vengo, se non vengo. Insomma, adesso dice che stanno insistendo. Lui, Alfano, che dovrebbe essere lui quello che corre se non c'è Berlusconi, perché è il numero uno adesso, il PD, dice no, io sto insistendo perché sia Berlusconi. Boh, sentite. Stiamo insistendo davvero in tanti a che finché Berlusconi, il presidente Berlusconi, si candidi nuovamente alla guida del paese. Una monarchia, una teocrazia quella di Berlusconi, una teocrazia, cioè ci si crede a prescindere, perché i sondaggi gli danno sempre ragione, e quindi non ci sono ragioni politiche, personali, di innovazione. Fra l'altro Alfano è il più giovane segretario di partito tra i grandi partiti, quindi avrebbe le carte e i numeri per andare avanti, ma si fa di lato. E poi la più bella è questa: Berlusconi ci dice, ci sconsiglia di parlare. Sì, il presidente Berlusconi dal punto di vista della comunicazione sconsiglia di parlare molto, perché parlando molto aumenta il rischio del misunderstanding, e anche quando lui era presidente del Consiglio non vi era un florileggio di sue dichiarazioni e non vi era una sua occupazione dei talk show, dei contenitori televisivi. Cioè, questa è meravigliosa, gli è scappata lui stesso, non vi era un'occupazione, cioè c'era l'occupazione, però adesso si dice che non c'era, non vi era un florilegio di dichiarazioni. Alfano, vabbè, insomma, che Berlusconi non amasse la dichiarazione, non avesse la dichiarazione facile, non sia stato per anni sulle prime pagine dei giornali, ogni giorno con dichiarazioni a effetto, questo mi sembra veramente... È pazzesca questa dichiarazione qua di Alfano. Adesso che Berlusconi però è in secondo piano, dice agli altri, questo secondo Alfano, non parlate, parlate pochissimo. Vabbè, adesso facciamo la pausa per il traffico, poi aspettiamo i vostri interventi all'800 24 00 24 tra pochissimo. La Zanzara. Sonia Alfano, buonasera, europarlamentare, presidente della Commissione Antimafia Europea, benvenuta, le abbiamo dedicato questa musica. Grazie. L'ha riconosciuta? No. Secondo me no. L'ha riconosciuta questa musica? No. No. No, infatti devo dire che neanch'io la conoscevo. Cioè, non, l'ho sentita, forse l'ha sentita anche lei se ha visto il film Il Divo dedicato a Andreotti. L'ha visto il film? Sì, è vero, ecco. Il film l'ho visto, sì, ma la musica non me l'ha. Era questa la musica, gliel'avevamo dedicata. Le è piaciuto quel film? Abbastanza, anche perché ci ho fatto capire ancora una volta che ci sono persone che quando moriranno si porteranno nella tomba i segreti di un intero paese. Mm. Senta, i giornali di oggi riportano questa notizia, che non è una fuga di notizie, però è una fuga forse di particolari. Lei stessa si è lamentata. Voi siete andati con l'esponente del PD Lumia a trovare, sì, Provenzano in carcere, per cercare di fargli dire qualcosa di più sulla questione della trattativa Stato-mafia. Adesso poi lei ci spiegherà esattamente. Però lei ha scatenato un sacco di reazioni negative, soprattutto nel centrodestra, l'attaccano, dicono che il ministro deve intervenire, il ministro Severino, non si fanno queste cose, sono solo i magistrati che possono andare a parlare con Provenzano. Ma lei come ha fatto ad avere l'autorizzazione, tra l'altro, per andare lì? No, attenzione, c'è molta confusione, ecco. Allora, io come tanti altri parlamentari, perché poi ci sono quei politici che hanno il coraggio di andare in carcere, altri politici che non hanno il coraggio di andare in carcere perché se ci vanno rischiano che i boss gli dicono perché io sto in cella e tu che hai fatto quello che ho fatto io sei fuori. Allora, tutti i parlamentari della Repubblica possono andare nelle carceri senza comunicazioni, senza autorizzazioni, senza nulla, per accertarsi delle condizioni. Le condizioni, sì, certo, questo sì. Esattamente. Però... io ho fatto questo, ho fatto esattamente questo, peraltro i colloqui che io ho tenuto sia io che il senatore Lumia non sono stati fatti, come dire, a livello individuale o da soli. Sì, certo, c'erano altre autorità. Era presente il direttore del carcere, il comandante della polizia penitenziaria, altri agenti, e non ci ha mai fermato nessuno, non ci ha mai interrotto nessuno durante le nostre conversazioni. E siccome credo che sia il direttore che il comandante della polizia penitenziaria sapesse benissimo quali possono essere le nostre e le loro prerogative, mi viene da pensare che forse qualcuno ha montato ad hoc uno scoop, uno scandalo che non esiste, anche perché io queste visite in carcere, il tour come lo chiamano alcuni, lo faccio da 3 anni, le faccio queste visite da almeno 3 anni e ho incontrato tutti, o perlomeno quasi tutti, i detenuti sottoposti al 41 bis, Santa Paola, Rina, Provenzano, Igraviano, Lo Piccolo, Morabito, Sandogan, veramente tutti. Ma perché, bisogna... perché fa queste visite? Perché se la motivazione è la verifica delle condizioni, però poi queste ricostruzioni dicono perché... altro, che lei ha cercato anche di interpellare questi personaggi su... Chi è che lo dice, scusi? Lo dice, non lo so, lo dice per esempio il Corriere della Sera. Sera voleva come dire, fare qualcosa per qualcuno, forse le stesse persone che oggi vengono tirate in ballo, quei nomi eccellenti che vengono tirati in ballo sulle indagini o nel processo della trattativa e il processo che è in corso a Palermo. Quindi lei, di fatto sono altri. Ma lei smentisce allora quelle frasi di Bianconi sul Corriere in cui dice che si è parlato, che voi avete parlato con Provenzano anche di un fatto che lui dia un nuovo contributo alle indagini? No, guardi, io ho detto a Provenzano, come ho detto a tanti boss, e mi stupisce che esca adesso e non dopo 3 anni. Peraltro l'ho anche scritto nel mio libro, ho raccontato nel mio libro di questi tour in carcere, ripeto. Io ho solo detto a Provenzano, come a tutti gli altri, che in questo paese ci sono delle leggi. Leggi che considerano la collaborazione tra il detenuto, tra il boss, e lo Stato e la giustizia. E io ho chiesto più volte a Provenzano, come l'ho chiesto a tanti altri, e come continuo a farlo adesso dai vostri microfoni, perché i detenuti ascoltano la radio, continuo a chiederlo adesso, cioè per favore collaborate, fidatevi dei magistrati, scegliete voi se volete scegliere un magistrato, lo continuo a dire anche a Provenzano, per favore collabori, dica tutto quello che può dire, perché ci sono diverse migliaia di famiglie, di vittime di mafia che aspettano verità e giustizia, e forse soltanto voi potete dirci come sono andate le cose, visto che in questo paese i magistrati che cercano di far luce su queste su questi fatti vengono o bloccati o vengono ammazzati o vengono trasferiti oppure vengono puniti, così come stanno facendo con alcuni magistrati in Sicilia. Quindi questa parte dell'articolo però la conferma, che c'è stato questo suo invito, c'è stato anche in passato, lo conferma. Ma è una cosa assolutamente normale, per me scontata, vede, forse per me lo è scontata perché io sono un familiare di vittima di mafia. È anche presidente dell'associazione vittime di mafia, no? Esattamente, mio padre è stato ucciso, è stato per fortuna l'ultimo giornalista ad essere stato ucciso dalla mafia, e mi basta dire questo a volgari allusioni fatte da alcuni personaggi del PDL, ma non mi stupisco, degni compagni di merende di Berlusconi e di Dell'Utri, che tremano all'idea che alcuni boss possano collaborare. Allora chiediamoci, c'è stata una rivelazione di atti di ufficio, una fuga di notizie, perché lei ha citato i virgolettati, a Bianconi chi li ha dati questi virgolettati? Questo è il lavoro dei giornalisti che ottengono sempre delle notizie, poi è un reato. La fuga di notizie, sì, in questi casi è come reato, in altri. È un reato, anche perché guardi che ha messo in pericolo la mia vita, la vita del senatore Lumia, e ti assicuro che non si lavora così, non si fa il buon giornalista, non è questo. Il buon giornalista dovrebbe andare a scovare i nomi e le prove di quei politici che hanno fatto la trattativa per mandare a morire l'ordine. Quindi, guardi, io continuerò a farlo per chiedere a tutti i boss di collaborare. Questo è un reato? Chiedere ai boss di collaborare, chiedere ai boss di riflettere. C'è l'audio che ogni tanto va via. Sonia Alfano, le voglio leggere una dichiarazione di Maurizio Paniz del PDL. Quindi aspetti che mi siedo, forse è meglio. Sì, se no cade dalla sedia perché questa è pesante. Dice, anziché cercare il consenso elettorale verso le persone oneste e con iniziative corrette, i parlamentari Lumia e Alfano si infilano nelle maglie della delinquenza peggiore, quella mafiosa, per captare un appoggio nella logica del più stretto pentitismo. Vabbè, Panis risponderà nelle sedi opportune di queste sue dichiarazioni. Cioè, l'accusa praticamente di andare a cercare... Ma lui, guardi, lui come tanti altri oggi... Andare a cercare voti. Questa è gente che non passerà alla storia se non per queste volgari allazioni o per essere stati compagni di merende di Berlusconi e dell'Utri. I loro eroi sono dell'Utri, quindi spero di aver già detto tutto. Mi devi preoccupare di questa gente, di gente che non ha mai fatto nulla perché venisse fatta veramente verità e giustizia in questo paese. Panis ha mai parlato con un familiare di vittima di mafia? Panis si è mai preoccupato di andare in carcere e di chiedere che i boss possano pentirsi? Perché noi abbiamo fatto questo. Poi per il resto Panis, già da domani mattina i miei avvocati si occuperanno di lui, Panis risponderà nelle sedi opportune, ma ricordo a Panis che i miei eroi non sono Dell'Utri e Mangano, e il capo del mio partito, il leader del mio partito non è Berlusconi, il leader del Chi mio è il leader partito del suo partito a proposito? Il popolo italiano, italiano. Perché lei viene, cioè, sta nell'IDV, però ultimamente c'è stato un po' di maretta. No, io sono stata eletta nell'IDV come indipendente, non ho mai avuto la tessera e non faccio parte di alcun partito. Ho un solo partito, appartengo al partito della Costituzione italiana. Però adesso il suo feeling, diciamolo, visto che non apparteneva, non aveva la testa, ma il suo feeling con l'Italia dei Valori è a un minimo storico, questo si può dire? Ma no, guardi, ci sono delle battaglie che possono essere condivise, ci sono punti di vista che non vengono condivisi. Io non ho ritenuto opportuno di sostenere Orlando alle amministrative di Palermo, e qualcuno come Donati ha scalciato, lo stesso Donati che oggi scalcia per difendere il Colle e il Quirinale, mentre Antonio Di Pietro dice che i magistrati devono andare fino in fondo le indagini sulla trattativa, sul processo Mori, e quindi dice al Colle stai calmo, non prenderti a cuore lo stato d'animo di un indagato come Mancino, e piuttosto fai in modo che la verità emerga, tu Colle che sei garante della Costituzione. Quindi mentre Di Pietro dice questo, lui viene smentito dal capogruppo alla Camera, Donati, che invece dice no, giuste le prerogative del Colle. Quindi, come vede, insomma, qualcuno là dentro non ha le idee tanto chiare. No, c'è una disputa, diciamo, più che non avere le idee chiare. Hanno entrambi le idee chiare, ma sono idee diverse, forse. Forse sì, no, dico, non hanno le idee chiare su come fra loro, nel senso su come stare insieme fra loro all'interno dello stesso partito. Che questo la rende un po' più fredda rispetto all'Italia dei Valori in questo momento? No, più fredda no, guardi, io voglio essere libera per poter dire quello che penso sempre. Sì. Senta, questo per me è importante. In Sicilia ci sono un po' di novità nella politica siciliana, perché sembra che si possa riproporre l'alleanza tra il Partito Democratico e l'UDC nella figura di un candidato come Crocetta, fra l'altro europarlamentare anche lui, credo, ancora. Sì. Siciliano come lei, ex sindaco di Gela, impegnato in battaglia antimafia, anche sui diritti civili, credo, perché lui è più o meno dichiaratamente omosessuale. Sì, credo che si possa dire. Adesso però c'è anche Claudio Fava, che invece è sostenuto da SEL e forse anche dall'Italia dei Valori. Lei chi appoggerebbe tra i due? Tra i due, a livello, senza guardare le coalizioni, perché se effettivamente c'è un'apertura da parte del Partito Democratico e quindi da Crocetta all'UDC, io non sostengo, non mi sentirei di votare Crocetta. Cioè basta tra che ci due... sia l'UDC per escludere l'appoggio a Crocetta, non è che valuta tanto Crocetta quanto il fatto che... No, Crocetta ha la massima stima da parte mia, Fava per alcune sue uscite poco felici... su me, su Crocetta stessa, insomma, farebbe un po' bene guardarsi da dove proviene lui. E quindi qual è la risposta alla fine? Tra i due chi appoggerebbe? Non ho capito. Ripeto, se non c'è questa apertura all'UDC, appoggio Crocetta. Ma l'apertura c'è, l'apertura dell'UDC c'è, questa è la notizia. No, allora mi dispiace, non mi sento di appoggiare nessuno. Quindi né Fava né Crocetta. Preferisco, no, no, assolutamente, preferisco guardare i contenuti e i progetti. Poi peraltro c'è anche il Movimento 5 Stelle, sono delle persone straordinarie che conosco benissimo. Ah, quindi potrebbe appoggiare il Movimento 5 Stelle? Ma io potrei andare, io vado a votare. Insomma, appoggiare no, vado a votare, appoggiare no, perché appoggiare, lei è un parlamentare europeo, avrà un suo seguito, sì, quindi sì. Se si sposta, sì, diciamo, Sonia Alfano potrebbe spostare anche dei voti in quella direzione. Ma io mi auguro che la gente voti per quello che pensa. Vabbè, questo poi ognuno vota perché gli pare. Va bene, abbiamo capito, né Crocetta né, né no, Claudio Fava. Crocetta sì, se non ha l'appoggio dell'UDC. Se Crocetta l'appoggio dell'UDC. Se ci stanno ascoltando, se lo segneranno e vedranno. Grazie, buona serata. Grazie a lei, arrivederci. Borsa, torniamo tra poco. La Zanzara. 18 e 33 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori. In queste due ore che passeremo insieme avremo modo di parlare anche di Olimpiadi, faremo un po' di cronaca con il nostro inviato Dario Ricci. Al momento non c'è moltissimo. Sky propone sul canale principale il basket femminile, Australia-Stati Uniti in vantaggio l'Australia 41-36. Per l'atletica stasera super finale con Bolt nei 200 e poi ci sono anche i triplisti italiani Greco e Donato. Poi la notizia bella di oggi, un'altra bella medaglia, il bronzo nella 10 km di nuoto, una disciplina massacrante, ma so che fanno anche molto di più. In Inghilterra fanno anche 88 km, c'è cioè una gara di nuoto. È una cosa pazzesca, almeno secondo me. E più tardi andremo a Londra. Sempre sul fronte sportivo, le dichiarazioni del presidente CONI Petrucci su Schwarzer, l'aveva detto ieri un nostro ascoltatore, che Schwarzer dovrebbe diventare testimonial dell'antidoping. Secondo me siamo matti, perché ha appena confessato, perché è stato preso con le mani nel sacco, di essersi dopato, già diventa testimonial dell'antidoping. Boh. Sentiamo adesso Petrucci. Lui, dopo la drammatica confessione di ieri, che certamente poi saranno gli organi inquirenti ad approfondirla fino a dove ha detto tutto, se ha detto tutto, lui dovrebbe diventare proprio il leader per combattere il doping, perché questo è quello che si deve fare quando si cade in questo baratro. Il leader, già il leader dell'antidoping, ma scusa, ma il leader dell'antidoping dovrebbe essere uno, io capisco Petrucci perché poi si cerca di salvare l'immagine e tutto, però dovrebbe essere uno che è dichiaratamente, trasparentemente pulito e fa una battaglia per contro il doping, non uno che è stato beccato e che fra l'altro ha fatto una conferenza stampa nella quale forse ancora sotto effetto di qualche cosa, era molto poco lucido, ma ha detto delle cose che non doveva dire, insomma, ecco, non stiamo a tornarci adesso su, ma insomma. Va bene, più tardi magari sentiremo anche qualche ascoltatore su questo 800 24 00 24. Cominciamo con i vostri interventi e abbiamo Francesco che ci chiama dalla provincia di Roma. Buonasera. Buonasera, senta, io mi chiamo Francesco, mi chiamo da Monterotondo. Volevo fargli una domanda. La differenza tra doping e truccare un avvenimento calcistico o altro. Per esempio, no? Alex, carriera finita. Mentre i calciatori e allenatori, tra patteggiamenti e ultimo grado di giudizio, 3 mesi di stop. Beh, Alex, carriera finita al momento, perché bisogna vedere quanto sarà la squalifica. Altri atleti non del calcio che non hanno truccato partite ma che si sono dopati, hanno fatto un anno e mezzo, sì, sono tornati. Gli voglio dire una cosa, che il signor Briatore, no, non c'è differenza comunque, cioè quando uno trucca le regole ha aggiustato una gara, è stato radiato a vita, sì, mentre i calciatori 3 mesi di stop e ricominciamo tutto da capo. Siamo ai tempi di Paolo Rossi, ai tempi di Lippi, ai tempi di Prandelli, diciamo, e siamo sempre qui, siamo sempre da capo a 12. Va bene la Germania a trattarci male, insomma, la beh, che c'entra, perché in Germania invece sono più severi su, non lo so, però ha ragione sul fatto del calcio sicuramente, ma anche nella stessa atletica o nel ciclismo non è che ci sia molta più severità. Lei ha citato un caso, ma Contador cioè voglio dire, insomma, non è che negli altri sport ci sia molta più severità che nel calcio. C'è poca severità forse in generale, perché ci sono tanti interessi economici da tutte le parti, questa è la mia personale considerazione. Certo, però giustamente, girano parecchi soldi, allora nel calcio sicuramente girano a livelli vertiginosi e quindi la conseguenza vabbè, ma se uno sbaglia la può trarre anche lei. Sì. È finito, no? Niente, se invece ricominciamo fra 10 anni, arriviamo da capo a 12. Boh, facciamo passare sta bufera, appena si sistemano un po' le cose, si ricomincia. io metto uno alla schedina e quello fa scappare. Ma tanto c'ha già Schwarzer c'ha già il posto come testimone all'antidoping, quindi non è che si deve preoccupare, perché finisce di correre e fa un altro lavoro. Sì, sì, anche grazie. Lui passerà sta bufera pure per lui e poi si aggiusterà. Voleva aggiungere altro, Francesco? No. Va bene così, la ringrazio. Bene, buona serata. Sergio da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Volevo intervenire, se era possibile, sul discorso dell'Ilva. Sì. Guardi, io conosco abbastanza un processo siderurgico e ieri sentivo la trasmissione che c'era un sindacalista che giustamente parlava della responsabilità dei politici. Era Bonelli forse, il segretario dei Verdi. Non ricordo il nome, però era un sindacalista che parlava. Che lui era sì, non era un sindacalista, ma comunque parlava sì dello stabilimento. Guarda, lo stesso. Sì, era Bonelli dei Verdi. Però io volevo fare, non so, voleva offrire un'informazione che questo problema, a me mi sembra, che come tanti altri problemi, sono stati diagrammati per cercare di avere qualche vantaggio economico. In che senso diagrammati, scusi? Com'è? No, ha usato una parola, che è diagrammati, questi problemi sono stati diagrammati, che vuol dire? Sono stati pianificati. Pianificati, programmati. Programmati, se mi scusi, sì. Io perché ho lei 40 forse... anni, sono vissuto fuori. Ah, ecco, sì, sì. Quindi il mio italiano non è... Va bene. Insomma, comunque sia, il problema è questo, il concetto sì. Che sì, è chiaro, è molto chiaro è questo. Qualsiasi processo siderurgico, dal momento che lei mette in moto un impianto che produce acciaio, lo mette in moto un impianto che produce arrabbio, genera acido sulfidrico. Questo acido sulfidrico, se l'impianto non è preparato per cercare di filtrarlo almeno al 95%, lo sta buttando in aria acido sulfidrico che con il... Vabbè, ma fin qua diciamo acqua. Lei ci sta descrivendo come funziona l'inquinamento dell'impianto, che ha accertato. No, sì. lo che appunto è un'altra cosa. Questo qua è un funzionamento che lo sanno tutti quelli che sono nel mondo, come il signore che parlava ieri, che parlava di che non si può fermare un alto forno, tutto quello, conosceva bene il processo, e questo acido sulfidrico in contatto con l'umidità ambiente genera acido sulfurico. Questo è lo che produce, tra le altre materie inquinanti. Ma non siamo a Quark, però, non siamo a Quark. Cioè, com'è? No, dico, non siamo a Quark, la trasmissione scientifica che spiega. No, lo che non ho capito questo, dove vuole arrivare. Sì. Lo che voglio arrivare è questo, dovevo fare questa introduzione per farle capire che questo problema non è nato ieri, un altro ieri o un mese fa, sino dal primo momento che è stato immesso in moto l'impianto di Ilva a Taranto. Sì, lo insomma, sanno tutti questo. Si sapeva. Però questo che è una cosa che molti ascoltatori dicono, e lo sta dicendo anche lei, però non capisco bene che argomento sia, perché si sapeva da sempre, però si sa anche che si cerca di migliorare la qualità delle produzioni. Quindi siamo partiti anni fa con un impianto che poteva essere inquinante, poi abbiamo scoperto quanto era inquinante, sempre di più, e abbiamo scoperto che ci sono modi per produrre in maniera meno inquinante, e allora si cerca di intervenire. Questa è l'evoluzione un po' della cosa, non lo so. Poi Sergio, se lei voleva aggiungere qualcos'altro. No, il problema è la disinformazione, perché questo processo siderurgico, il primo momento che si mette in moto, che si sa come funziona e che sa che si inquina, e si inquina gravemente. Ma lei ha lavorato in qualche impianto siderurgico in vita sua? Io le disegno. Ah, lei è un progettista? No, sì. Oltre progettazione faccio degli impianti che possono produrre arrabbio in un alto forno. E quindi le dico che questa è una grande bugia, come tante bugie che le dicono alla gente. Questo impianto si sapeva dal primo momento, lo che so perfettamente, che tutti gli impianti di antinquinamento costano quasi il 65% dell'investimento per farlo funzionare, nessuno lo fa, salvo che siano le leggi molto strette, molto rigide, salvo che sia una società con una cultura tale che possa identificare che c'è un problema per poter guadagnare soldi con l'acciaio. Ecco, questo mi sembra già un ragionamento diverso, cioè per produrre in maniera pulita ci vogliono investimenti, molti soldi. E naturalmente il privato quando può risparmia, perché altrimenti la produzione non è più conveniente, però ci vogliono leggi stringenti, questo è il suo ragionamento per obbligare questo è un ragionamento che secondo me fila, cioè ci vogliono investimenti e poi magari anche lo Stato può metterci del suo, visto che si tratta di un impianto che ha una grossissima ricaduta sull'economia, no? Con l'indotto. Comunque, grazie Sergio per questo suo intervento. Dove andiamo? Francesca, sempre da Roma, buonasera. Buonasera, tolgo lì la voce. Buonasera, sì, dalla provincia di Roma. Sì. Io volevo prima di tutto fare insomma, i complimenti a tutti coloro, a tutti gli atleti che hanno vinto le medaglie e fare una riflessione. Sentiamo sempre che questi atleti sono dell'esercito, di tutti i corpi, che abbiamo, militari e paramilitari. Ecco, io inviterei Radio 24 a fare un'inchiesta, un'indagine sul rispetto al quanti risparmi si potrebbero fare. A fronte di quanti atleti sono le nostre eccellenze, sono le Olimpiadi, quanti ce ne sono imboscati nelle caserme, nei corpi o a casa, perché se ne stanno a casa bellamente, che sono sportivi all'interno dei corpi. Io conosco la parte dell'equitazione, ci sono delle persone che girano con Porsche, commerciano cavalli, fanno e disfano e hanno, come si dice, e sono magari nei corpi dell'esercito o in altri corpi e non ci vanno mai, non li vedono mai e sono gli atleti. Quanti atleti ci sono all'interno della polizia penitenziaria, della polizia, dei carabinieri, di tutte quante? Riusciamo a fare, perché vi sento sempre dalla mattina alla mattina dopo perché dormo con voi. Vorrei riuscire a sapere se riuscite a capire quanti sono gli atleti complessivamente nei corpi dello Stato. Sì, va bene, non lo so, magari proveremo a fare un censimento anche su questo. Salutiamo però intanto la nostra prossima ospite, Maria Di Prato. Salve, buonasera. Dell'Unione Popolare. Cos'è, un'associazione, un movimento, un partito? È un movimento di cittadini che si è riunito sotto questo simbolo appunto di Unione Popolare. Che ieri ha fatto una conferenza stampa alla Camera per ufficializzare la raccolta di 1.300.000 firme per la presentazione di una consultazione referendaria che i giornali sintetizzano col titolo Anticasta. Sì. Di che si tratta? Noi abbiamo presentato un quesito referendario in Cassazione per chiedere l'abrogazione dell'articolo 2 della legge 1261, ovvero l'articolo che regola la diaria dei parlamentari. In questo momento che tutti quanti noi italiani stiamo facendo dei sacrifici, noi non siamo dei politici, siamo dei cittadini, ognuno di noi ha un lavoro e in questo momento abbiamo ritenuto fare questo referendum perché ci siamo aspettati dalla classe politica una equità in termini di appunto riduzione, che invece naturalmente di privilegi non è arrivata. E voi vi siete mobilitati tramite il web, qualcuno ha parlato di un miracolo, 1.300.000 firme raccolte senza partiti, non ci sono partiti da voi? No, assolutamente, anzi, purtroppo non ci hanno appoggiato in questa nostra battaglia referendaria. Dobbiamo dire grazie ai volontari di Unione Popolare, ma grazie anche ai tanti impiegati comunali. Sì. Che hanno sentito il problema, perché noi li abbiamo sentiti tutti, abbiamo posto l'attenzione su di loro, volevamo valorizzare anche le tante risorse nei nostri tantissimi comuni italiani e parlando con loro abbiamo spiegato il motivo per il quale volevamo fare questo referendum e devo dire che si sono mobilitati tantissimi dipendenti comunali e quindi insomma ci hanno dato una mano e abbiamo raggiunto questa cifra. Credo che sia uno dei referendum più firmati della storia dei referendum. Beh, di questi tempi tra l'altro parlare di un referendum anticasta, e comunque voi avete preso di mira la diaria dei parlamentari, cioè gli emolumenti, insomma i guadagni, i rimborsi spesa. Odiosa, che ammontano per ogni parlamentare a 3.500 euro al mese e tra l'altro questi rimborsi spesa vanno anche ai 150-200 deputati residenti a Roma. E allora ci siamo chiesti, ma com'è possibile che chi governa non ha dato un segnale forte, importante, non tagliando dei privilegi? Perché dobbiamo farlo solo noi cittadini? E questo chiaramente... Senta, però c'è la querela, la questione aperta Sul fatto se queste firme alla fine serviranno a qualcosa o no, perché la legge che regola il referendum, in pratica rischiate di aver fatto un lavoro per nulla, perché non si possono depositare le firme. Abbiamo il traffico, le faccio la domanda, poi facciamo la pausa per il traffico. Non si possono depositare le firme entro nell'anno precedente alla scadenza della Camera, quindi questo, diciamo, invaliderebbe. Voi però avete una vostra controtesi, adesso ce la dirà. Traffico. La Zanzara. Di nuovo in compagnia di Maria Di Prato dell'Unione Popolare, che ha presentato, deve ancora in realtà depositare le firme. Avete fatto sapere che avete raccolto 1.300.000 firme, soprattutto tramite il web, ma anche tramite tutti i volontari di cui parlava lei prima, per un referendum che abolisca l'articolo 2, lo ripeto, della legge 1261 sulle indennità parlamentari. Qualcuno dice che questo lavoro l'avete fatto per nulla perché i tempi non consentono, vista la scadenza della legislatura, di farlo questo referendum. Noi abbiamo ricevuto un attacco soprattutto dal Movimento 5 Stelle, che non riusciamo a comprendere il perché, ma comunque, senza voler far polemica, noi siamo convinti invece delle tesi dei nostri costituzionalisti, anche perché Unione Popolare ha deciso una linea che è molto coerente col suo percorso, ovvero la legge dice non si può presentare richiesta del referendum l'anno prima delle elezioni politiche. Infatti noi depositeremo le firme perché per richiesta di referendum si intende la consegna materiale delle firme presso la Corte di Cassazione. Noi le firme le abbiamo raccolte in 90 giorni e le depositeremo a gennaio, proprio perché c'è questo divieto. Ciò nonostante, oltre ad essere rassicurati da questo aspetto, ieri Unione Popolare ha lanciato un appello molto forte alle istituzioni, perché noi da questo ci distinguiamo molto dalla posizione dei grillini. Cioè, nel senso, noi non vogliamo sfasciare, però vogliamo sicuramente cambiare questo assetto, e l'appello è stato lanciato alle tre più alte cariche dello Stato, al Presidente Monti, ai Presidenti Fini e Schifani, chiedendo che dopo questo risultato siano loro in Parlamento, subito dopo la pausa estiva, a dover fare questa legge di abrogazione della diaria, che è una cosa ingiusta e iniqua. E su questo noi daremo battaglia, perché subito dopo la pausa estiva noi riprenderemo a raccogliere le firme, proprio perché non vogliamo che questo referendum finisca nel dimenticatoio e che ci si dimentichi che 1.305.639 italiani hanno detto no alla diaria dei parlamentari, e consegneremo anche quelle in Cassazione, ma ci auguriamo che il Parlamento intervenga. Ma lei ci crede in un intervento del Parlamento? Io credo nelle istituzioni e credo anche nel buon senso e nella sensibilità di chi ci governa. Io vorrei crederci. Ieri abbiamo avuto un primo risultato. L'onorevole Parisi, dopo la nostra conferenza stampa, ha già dichiarato all'ANSA che lui stesso è il primo ad essere disponibile a questo passaggio parlamentare. Io mi auguro che ci sia anche da parte degli altri parlamentari questo desiderio di voler fare anche loro un percorso verso l'equità, altrimenti solo noi cittadini facciamo dei sacrifici e chi ci governa, che ha anche sbagliato, non li fa. Questa è la linea di Unione Popolare. E questa noi andremo avanti, sperando che anche voi dei media ci aiutate, perché in questo paese noi dobbiamo dare un segnale anche pedagogicamente diverso rispetto a quelli che sono stati forniti finora, che sicuramente non ci piacciono, è evidente. Ecco perché anticasta, noi non siamo antipolitica, siamo anticasta. Perché questa casta parlamentare, che chiaramente è la più titolata a rappresentare il paese, è venuta meno, e quindi nel suo proprio concetto di democrazia rappresentativa loro dovevano essere il tramite tra il popolo e le istituzioni. Hanno sbagliato, ci hanno fatto trovare in una situazione di crisi incredibile, e noi italiani siamo tutti, insomma, voglio dire, no, si sa, estremamente provati da questa crisi che ormai è entrata nelle nostre famiglie, e questo significa che non ci hanno rappresentato né equamente né meritocraticamente e né dignitosamente. Quindi adesso speriamo che loro facciano questo passo. Molto potete fare voi, perché chiaramente questo tam tam non deve spegnersi, E speriamo che loro facciano questo percorso, altrimenti noi continueremo la nostra battaglia fino ad arrivare al referendum, che sappiamo bene che costa, ha un costo, perché insomma parliamo di cifre incredibili per celebrare un referendum, e a questo punto speriamo che loro invece facciano quest'atto di buonsenso e di sensibilità che può essere utile per tutti noi. Ma voi avete scritto, mi diceva, forse state per scrivere, avete avuto qualche risposta, per ora no? Solo dall'onorevole Parisi. Noi scriveremo in questi giorni, subito dopo Ferragosto, io scriverò una lettera aperta che vi invierò e invierò a tutti i giornali, a Monti, al presidente Monti, ai due presidenti Fini e Schifani, e ci auguriamo che sia proprio il presidente Monti che, con quelle sue paroline equità e rigore che ha pronunciato quando si è insediato, sia conseguenziale, perché anche il presidente Monti riceve lo stipendio da senatore a vita e anche il presidente Monti riceve la diaria. Però se i nostri parlamentari diventassero all'improvviso super efficienti e facessero tutto quello che non hanno fatto, o almeno che gli si chiede finora di avere fatto, varrebbe la diaria, cioè varrebbe pagare qualcosa di più per avere dei parlamentari più efficienti, oppure secondo voi bisogna ridurre, punto e basta? Guardi, noi riteniamo che 17.000 euro e tutta l'indennità complessiva, compresa appunto la diaria, in questo periodo di crisi, io non credo che a settembre finirà la crisi, in questo periodo di crisi siano eccessivi, per cui insomma diminuire di 3.500-4.000 euro a parlamentare non mi sembra che li impoveriamo all'improvviso. Certo, è giusto che chi fa un lavoro e raggiunge gli obiettivi venga pagato, ma sempre dignitosamente e con una certa parsimonia, perché oggi dobbiamo risparmiare tutti. E la nostra battaglia chiaramente è partita da loro, perché loro sono il primo elemento che danno appunto l'indirizzo al paese, ma poi continueremo con tutti i privilegi, perché è giusto che sia così. Va bene, grazie, staremo a vedere. Maria Di Prato dell'Unione Popolare, buona serata. Grazie a lei, arrivederci, buonasera. 800 24 00 24, ancora lo spazio prima del giornale radio, almeno per un intervento degli ascoltatori. Abbiamo Alessandro che ci chiama da Treviso, buonasera. Buonasera, io sono rimasto un po' sconcertato dalla dichiarazione dell'onorevole Alfano, Sonia Alfano, sì. Quando giustamente lei ha detto io sono andata a parlare dai mafiosi in carcere, queste dichiarazioni sono uscite nei virgolettati dei giornali, è una violazione del segreto istruttorio, una fuga di notizie, è un reato, ha detto. Io all'onorevole vorrei dire, ma perché è un reato quando la cosa viene fatta da lei? Non è un reato quando invece riguarda altri esponenti politici. Su Berlusconi non è mai esistito il segreto istruttorio, su Dell'Utri neanche. Adesso abbiamo visto sul Presidente della Repubblica, in questo famoso presunta trattativa, ecco, tra Stato e mafia. Per gli altri, quando viene violata la libertà delle persone attraverso questa violazione del segreto istruttorio, non è un reato. Per lei sì. Mi sembra un atteggiamento molto ipocrita questo. È un atteggiamento che sarebbe opportuno forse che evitasse di tenere, proprio anche per il fatto che lei è figlia di un giornalista ucciso dalla mafia. Grazie Alessandro, su questa ragione, anche se devo dire che lei ha detto che non è vero quello che ha scritto Bianconi, quindi un conto è è la fuga di notizie, un conto è riportare quello che non sarebbe stato detto in quelle... Ha detto chiaramente che la fuga di notizie è un reato, e io sono d'accordo con lei, ma non capisco perché debba valere soltanto per lei, che ha detto di essere stata messa in pericolo addirittura nella sua vita, io vorrei sapere come, sinceramente, e non valga anche per gli altri. Io ho un'esperienza personale in merito. Mio suocero è stato arrestato, c'è stata una fuga di notizie in cui lui è stato sbandierato sui giornali come uno dei peggiori delinquenti del circondario mio qui di Treviso, e naturalmente è stato assolto perché nella cosa lui proprio non c'entrava assolutamente nulla. Intanto però si è trovato l'immagine rovinata, scusate il termine, sì. Le sue aziende sono fallite e nessuno ha tirato fuori non soltanto una lira per risarcirlo, ma nessuno ha pensato bene di smentire quello che era successo prima. È venuto fuori un trafiletto, 8 righe sul giornale, per dire che era stato assolto. Però intanto la vita sua è stata rovinata, la vita della nostra famiglia è stata distrutta. Allora, l'onorevole pensi un po' più a quello che accade alle persone normali e un po' meno a quello che accade a lei. Grazie Alessandro, ci dobbiamo fermare qua, giornale radio, torniamo di nuovo più tardi, 800 24 00 24. La Zanzara. 19:16 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati insieme fino alle 20:30 con me Alessio Maurizi, con tutta la squadra al completo in redazione, Laura Vanossi, Cristian Goldoni, Nadia Zimmetti e poi c'è Pietro Lacorte in regia. Proseguiamo quindi ancora per un'ora e quasi e mezza con i vostri interventi, 800 24 00 24. Ci sono già alcuni ascoltatori prenotati, prima però titoli di TG3. Banca Centrale Europea, crescita debole, spread inaccettabili per le imprese italiane, rischio insolvenza, governi pronti ad attivare i fondi salva Stati. Da settembre l'abbattimento del debito pubblico sul tavolo del governo, si punta alla vendita di immobili e partecipazioni dello Stato. Il segretario PDL, ci sono le condizioni per un asse con la Lega, Casini a braccetto con la sinistra, il leader UDC, io moderato, da prima di Alfano. Solleva un polverone l'iniziativa dei parlamentari Lumia e Alfano di visitare in carcere Provenzano ed altri boss per invitarli a collaborare. Interviene il ministro Severino. Mezza Italia va a fuoco, roghi accidentali ma soprattutto dolosi, 200 denunce, 8 arresti dall'inizio dell'anno, interessi criminali per milioni di euro. In Siria i ribelli si ritirano dal loro quartiere Roccaforte ad Aleppo e fuga dal paese in guerra. In 160 sbarcano anche in Italia, a Crotone. L'addio di Josefa Idem alla sua 8ª Olimpiade, l'atleta più longeva dello sport italiano annuncia il ritiro, mentre dai 10 km in acqua arriva il bronzo di Martina Grimaldi. Non so se un nostro ascoltatore al 349-238-6666 aveva proposto di costruire una statua di Josefa Idem nel giardino di Schwarzer, è vero, sì, me lo confermano, io me l'ero perso un messaggio, anziché fare, come dice Petrucci di Schwarzer, un testimonial dell'antidoping. Provocazioni 349-238-6666 ai nostri sms. Ascoltatori, allora prima però sentiamo il ministro dell'ambiente Clini, dichiarazioni sul caso Ilva, credo che siano dichiarazioni vecchie, però sono, cioè vecchie nel senso di 2 giorni fa, 1 giorno e mezzo fa, 1 giorno fa, non di oggi, insomma di ieri, sulla questione Ilva. Sentiamo. L'azienda deve fare molti interventi. Ci sono 462 prescrizioni, il che vuol dire che l'impresa, in base alla direttiva europea oggi in vigore, non si può dire in regola. L'impresa non si può dire in regola. Clini, che è stato direttore generale del Ministero dell'Ambiente per, credo, forse 20 anni o qualcosa del genere, adesso è ministro, insomma queste sono le sue affermazioni. Lei farebbe vivere un familiare nei paraggi di Taranto? No. Lei farebbe crescere un suo nipotino nel quartiere Tamburi di Taranto? Ma sicuramente no. Non avrei neppure preso casa. Credo che il quartiere Tamburi di Taranto sia la rappresentazione molto concreta di un modo assolutamente disordinato e scriteriato di localizzare insediamenti abitativi. Così dunque il ministro dell'ambiente Corrado Clini sulla questione Ilva. 800 24 00 24, va avanti intanto il basket femminile di cui non gliene frega credo niente a nessuno, non so se è una finale, no, che cos'è, semifinale, Australia in svantaggio, Stati Uniti in vantaggio 67-62, però tra poco ci sarà la piattaforma da 10 metri di tuffi con l'italiana Batchi, poi in pista di atletica i triplisti Greco e Donato e sentiremo Dario Ricci. Poi naturalmente stasera per gli appassionati di atletica la superfinale con Bolt nei 200, vincerà sicuramente, a meno che non si infortuni, adesso vorrei gufargliela, ma ha vinto le semifinali in una maniera imbarazzante per gli altri, un po' come nei 100, ma anche di più forse. Ascoltatori, Michele da Treviso, buonasera. Pronto? Pronto, eccoci qua. Buonasera. No, volevo solo... siccome ho sentito le dichiarazioni di Petrucci, sì, dopo che ha saputo di Schwarz del problema del doping, e ha detto che in 2 ore lui praticamente ha preso una decisione importantissima, che è quella di escludere questo ragazzo, a parte la gogna mediatica, qual è stato sottoposto in quell'intervista veramente penosa. Perché quale intervista? Quale gogna? È ovvio, no, le interviste che hanno fatto, insomma, a sto ragazzo, l'intervista che la conferenza stampa che ha fatto. Però scusi, mi scusi, ma non è stato sottoposto a una gogna mediatica, perché questo adesso se no si cambia il senso della realtà. È lui che si è presentato giustamente, ma in conferenza stampa non è stato sottoposto a nessuna gogna. Sì, ma io intervenivo. Le parole sono importanti, diceva. Sì, no, quello che ha detto Petrucci, che in due ore ha preso la decisione di escludere sto ragazzo dalla competizione olimpica, cioè, qual è la novità? Cioè, che cosa ha fatto? Lo paghiamo centinaia di migliaia di euro tutti gli anni. Cioè, paghiamo? Scusi, Schwarzer o Petrucci? Petrucci. No? Sì. E lui ha preso una decisione in due ore straordinaria, cioè quella di, ci sembrava una cosa eccezionale quello che ha fatto, cioè saputo di questo problema del doping, ha deciso di... Ma lei ha ragione, siamo a questi livelli, cioè Petrucci ha fatto il suo dovere, però lo dice come se avesse fatto un miracolo. Ma è la stessa cosa di Schwarzer, che ha confessato quello che doveva confessare, adesso diventa testimone dell'antidoping. Anche questo, insomma, mi sembra veramente ridicolo, insomma, già abbastanza. Non so, Michele, okay. Voleva aggiungere altro? No, grazie. No, non volevo aggiungere altro. Benissimo. Mi sembrava strano sta cosa di sto Petrucci, insomma, che ha fatto sta cosa straordinaria, con quello che ha fatto il suo dovere. Poteva fare, cioè. Benissimo, grazie. Silvio da Vicenza, buonasera. Silvio da Vicenza, ci sente? No, non ci sente. Alessandro da Verona, allora. Sì, Alessandro. Eccolo qua, buonasera. Allora, io ho delle idee piuttosto drastiche, diciamo, sullo sport in generale. Karl Kraus, che io immagino che lei conosca, diceva che gli argomenti sportivi sono molto utili per l'instupidimento generale delle famiglie, questo circa un secolo fa, quando Karl Kraus era sull'onda come polemista, come aforismi, insomma, era un genio in questo campo, no? E io sono d'accordo anche dopo, sotto il profilo pratico, perché queste manifestazioni sportive danno, come dire, agio a cretini di tutti i tipi di organizzare le cose più balzane. E l'Olimpiadi è la cosa più balzana che ci sia, però in uno stato... L'Olimpiadi è la cosa più balzana che ci sia? Ma è balzana nel senso che non serve a niente, lo sport serve... No, scusi, allora, scusi, però noi, sì, non, no, si, sì. Non no, mi può dire però che siccome ci sono degli stupidi che di fronte allo sport diventano ancora più stupidi, allora non dobbiamo fare più le Olimpiadi per colpa di questi stupidi, questo no. Ma scusi, lo sport in una società sana mentalmente, lo sport sarebbe praticato come giustamente dovrebbe essere. Difatti il Comitato Olimpico, invece di sponsorizzare questi fenomeni, diciamo, avrebbero il dovere di costruire piccoli impianti sportivi nelle scuole dove possono usufruire i bambini che magari ne hanno anche bisogno fisicamente, di fare un po' di nuoto, quelle cose che fanno bene al fisico e anche alla mente. Ma lo sport agonistico in sé crea solo dei mostriciatoli senza cervello, come il povero ragazzo altoatesino, che sentirlo parlare... Mi scusi, io però devo dire qualcosa, non sono assolutamente d'accordo, lo sport agonistico serve anche come punto d'arrivo proprio per quelle persone che lei auspica che ci siano sempre di più, i giovani che fanno sport nei circoli, nei quartieri, nelle città, è tutto bellissimo, però se poi non ci sono le Olimpiadi, non c'è un campionato di Serie A, non c'è un punto d'arrivo, non c'è neanche la voglia di farlo, o meglio c'è la voglia ma c'è una motivazione differente. A questo forse servono anche, dovrebbero magari servire le Olimpiadi, forse ci sono degli sprechi, sicuramente altri paesi investono di più nello sport a tutti i livelli, l'Italia no, però se lei conclude che non bisogna fare le Olimpiadi, non lo so, io non sono d'accordo, sentiamo poi cosa ne pensano gli altri, ma credo che si tiri dietro un sacco non di insulti, insomma, Alessandro, però voleva aggiungere qualcosa o ci salutiamo? Sì. Io vorrei fare una domanda e lei mi dà una risposta dal suo punto di vista, chiaramente, no? Quando io ho visto un atleta negro, bianco, di qualsiasi negro? Venga, lei è uno che con le parole ci va giù, è pesante, sì. No, ci sono, perché i negri si chiamano negri, i cinesi sono cinesi, noi siamo europei, no, poi gli uomini... A casa mia negro è dispregiativo e si dice nero, persona di colore, casa mia, poi a casa sua, abitiamo in case diverse, Alessandro. Non lo intendo in questo senso. Io non lo intende, ma chi lo riceve lo intende. Non so se se n'era accorto di questo. Perché cosa cambia tra nero e negro, mi scusi, disse. Lei mi sa dire... Che uno è dispregiativo e uno no, e uno è oggettivo, e che loro preferiscono essere chiamati neri e non negri. Questo è nel political correct... No, questo è nella vita delle persone. Comunque, vabbè, mi dica lei, cosa ne viene all'umanità in generale quando ho visto uno che è saltato 9 metri o 8 metri o anche 16 metri? A lei non le viene nulla, perché in testa c'ha poco, secondo me. A me invece viene molto, e a un sacco di gente che la guarda, milioni di persone si divertono moltissimo. Per esempio stasera guardando Bolt, un gesto atletico straordinario. Lei non lo so cosa le viene in testa, ma poco. Alessandro, che le devo dire? Senta, i risultati poi si vedono, no? Quali risultati? Si vedono nel concreto. Tutto il fanatismo religioso. Non è I risultati si vedono nel concreto. Potrei dirlo io, i risultati di argomentazioni come le sue, che sono non approdano a nulla, si vedono. Cioè, nel senso che lei si è impiccato alla corda da solo. Alessandro, vuole continuare così a dire altro oppure... No. Ognuno rimane nelle sue convinzioni. Buonasera e grazie. Buonasera. Questo era il meraviglioso Alessandro. Questa potrebbe essere dedicata anche a Alessandro, non solo perché è di Verona e quindi siamo nei paraggi, un po' alla lontana della montagna, ma poi per scenari, diciamo, alcolici di alta montagna, che secondo me potevano andare anche d'accordo col personaggio di prima. Ma in realtà tutto questo è dedicato a un'altra vicenda. Parliamo delle comunità montane che in Verona, in Veneto, scusate, diventano unioni montane perché c'è un'operazione di salvataggio, vogliamo dire così. Sergio Reolon, consigliere regionale del Veneto del Partito Democratico, buonasera. Buonasera. Non si arrabbi perché io ho detto subito operazione di salvataggio delle comunità montane. Lei dirà che invece state cambiando, state diminuendo le spese e tutto quanto, però di fatto c'è un progetto di legge regionale per trasformare le comunità montane, che secondo molti andrebbero eliminate perché sono sprechi, in unioni montane. Comunità montane vengono eliminate e vengono costituite le unioni montane, che sono previste dalla normativa anche nazionale. L'unione montana, l'unione dei comuni, serve su tutto il territorio nazionale perché i comuni si associno per dare i servizi in forma associata e quindi in maniera più efficiente e risparmiando. Questo è un tasto importante, il risparmio. Questo è quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo, se non che in montagna, siccome il territorio è diverso, ci sono condizioni diverse, dovevamo dare anche dei parametri diversi, ad esempio sul numero di abitanti, mentre il decreto nazionale prevede che i comuni sono obbligati ad associarsi sotto i 3.000 abitanti, noi diciamo sotto i 5.000, perché siccome in montagna ci sono tanti comuni piccoli, sotto i 3.000 si romperebbe l'unità territoriale. E senza unità territoriale non si possono nemmeno gestire in forma associata i servizi. Quindi io credo che sia una legge intelligente che sgombera il campo dall'idea delle vecchie comunità montane, che le trasforma appunto dal basso in comuni che si mettono insieme per gestire meglio i servizi di cui i cittadini hanno bisogno. Vediamo su questo punto, il punto del risparmio economico, se siete in grado di fare delle previsioni o se invece, come ci perdonerà, ma molti cittadini temono di fronte a notizie come queste, che si trasformino un po' le cose e col gioco delle tre carte poi si torna, cambiando il nome, unioni montane, ma si torna a consigli, amministrazioni, gettoni di presenza, eccetera eccetera. Adesso lei ci chiarirà benissimo questo punto. Prima però facciamo la borsa e poi torniamo di nuovo con lei. La Zanzara. Eccoci qua di nuovo in diretta, 19:32 minuti, 800 24 00 24, gli ascoltatori in linea, tra poco li risentiremo. Abbiamo però ospite il consigliere regionale del Veneto del PD, Sergio Reolon, un'iniziativa di legge PD, PDL, Lega, una sorta di, insomma, di grosse coalizioni in salsa veneta, per la trasformazione delle comunità montane in unioni montane. Lei ci stava dicendo, una legge intelligente va verso il risparmio, ci rassicuri? Quanto avete fatto delle stime? Anche perché quando si fa una legge in genere, si, almeno a livello nazionale, credo ci sia un obbligo di fare un piano di quanto costerà mettere in pratica questa legge. Voi avete fatto stime di quanto si risparmierà con questa trasformazione, oppure andiamo al buio? No, non si va al buio. Intanto non costa nulla alla regione. Tutti gli incarichi sono gratuiti. Così è previsto nel disegno di legge. Ma quello che mi stupisce è che forse si parte sempre prevenuti e non si sa come stanno le cose. Sa com'è con gli andazzi che abbiamo sotto gli occhi. No, ma io la capisco, ma voglio solo precisare, lo dico per precisare. Allora, cosa è che abbiamo fatto noi? Oggi esistono le comunità montane. Cosa fanno le comunità montane? Gestiscono, non fanno quelle cose che erano previste nella legge 1102 del 71. Gestiscono alcuni servizi che i comuni da soli non sarebbero in grado di gestire. Se noi le avessimo sciolte e basta, la comunità montana Agordina, che ha 16 comuni e che gestisce per conto di questi 16 comuni la raccolta dei rifiuti, per intendersi, dal giorno dopo lo scioglimento ogni comune avrebbe dovuto mettere in piedi una sua struttura per la raccolta dei servizi. Oppure avrebbe dovuto ricostituire un'unione dei comuni per la gestione. Questo è chiaro, però Reolon, mi scusi, ma c'è una legge per cui c'è un motivo per cui le comunità montane andavano sciolte secondo la legge, e quindi voi in questo modo in qualche modo aggirate quella legge lì? Ma assolutamente no, ma scusate, ci sono in Toscana hanno fatto la legge sulle unioni dei comuni e hanno trasformato le comunità montane. In Piemonte hanno fatto la legge sulle unioni dei comuni e hanno trasformato le comunità montane. Cioè, io dico, qual è la ratio per cui su tutto il territorio nazionale si fanno le unioni dei comuni e in montagna non si dovrebbero fare? In montagna c'è più bisogno, perché in montagna i comuni sono più piccoli, hanno un territorio più ampio. Va bene, ma questo è chiaro, Reolon. Però la domanda, lei non ha risposto, la domanda sul come fatto no? dei risparmi. Ci saranno dei risparmi, oppure diciamo sarà una riforma a costo zero, che non costa ma neanche fa risparmiare, cosa che uno spera sempre di poter ma fare. Ma no, fa risparmiare, perché se i comuni stanno insieme per gestire dei servizi, sì. Se l'unione dei comuni gestisce per conto di 16 comuni un ufficio tecnico centralizzato, si spenderà meno che non un ufficio tecnico per ogni comune. L'organo politico, il consiglio, il presidente non costano nulla. Quindi c'è solo risparmio che deriva dall'unificazione nella gestione dei servizi. A me sembra di aver risposto in maniera molto precisa. No, ecco, adesso sì, adesso sì. Lei inizialmente aveva detto che non ci sono costi in più per la regione. No, intendo dire. La domanda era se ce n'erano in meno. Ci sono costi politici, sì. È vero. Dopodiché ci sono tutti i risparmi derivanti dall'unificazione nella gestione dei servizi, che non sono quantificabili, perché ci sono dei servizi che i comuni sono obbligati a svolgere. No, insieme. No, ma questo è chiaro. Questo è chiarissimo, l'ha già detto, e tra l'altro è un tema noto per quanto riguarda le comunità montane. Ma quindi questa legge, questo progetto di legge, che ha avuto anche qualche opposizione da parte, credo, dell'Italia dei Valori, della sinistra, e forse un astenuto da qualche parte, non mi ricordo chi. No, l'Italia dei Valori, l'UDC. L'UDC si è astenuto, esatto. È in Veneto. Come la definirebbe? Una legge che va nel senso dell'austerity, cioè una piccola spending review, cioè davvero si va a tagliare, a risparmiare costi politici, gettoni di presenza nelle comunità montane, eccetera, eccetera, oppure una legge di salvataggio delle esigenze della comunità montana? Come la definire? È una legge di risparmio, però quello che interessa di più a me è una legge che aumenta l'efficienza dell'amministrazione pubblica, che conta molto di più del risparmio. Va bene, questo... aumenta l'efficienza. E questo vuol dire risparmiare, ma vuol dire anche dare ai cittadini servizi migliori. Ma perché prima con le comunità montane non era la stessa cosa? Non erano i comuni associati che gestivano i servizi tramite le comunità montane? In gran parte sì, ma non ovunque. Quindi perché c'è più efficienza? No. Si mantiene lo stesso livello di efficienza? No, non no. È vero, perché questo stimolerà le comunità montane ad aumentare perché questa associazione di servizi. Certo, l'idea che ho io, sì? Adesso parlo a titolo personale, ma non voglio interpretare gli altri, è che le unioni dei comuni devono in qualche modo prefigurare il futuro comune montano, perché non possiamo continuare ad avere una dispersione sul territorio, una frammentazione di comuni come c'è adesso. Quindi l'unione di comuni non è un salvataggio delle comunità montane, è la strada per il futuro, per indicare ai comuni cosa devono fare, cioè unirsi. Ecco, cioè può darsi appunto insieme, che sia, cioè fondersi. Può darsi appunto che sia, come dice lei, una buona legge che va nel senso dell'efficienza e del risparmio, le due cose insieme. Questo naturalmente lo si vedrà, lo si capirà dai titoli di alcuni giornali, c'era stato un po' d'allarme, perché sembrava che si trattasse di una trasformazione di alcuni, chiamiamoli carrozzoni, che ci sono stati e ci sono ancora e ci saranno purtroppo, ahimè, nel campo dell'amministrazione pubblica e delle contestate comunità montane. Ce ne sono tanti di carrozzoni. Ma ci sono anche lì però, ci sono anche tra le comunità montane, diciamo. Certo che ci sono anche tra le comunità montane, magari quelle che conosco io meno, ma anche fra quelle che conosco ci sono quelle che funzionano di più, quelle che funzionano di meno, questo è certo, ma il problema è questo, noi avevamo bisogno di uno strumento che portasse i comuni sempre di più sulla strada dell'unificazione. E abbiamo fatto questo, a me pare un provvedimento intelligente. Chi parla di mascheratura del salvataggio delle comunità montane fa solo una strumentalizzazione politica che ci sta, per l'amore del cielo, sappiamo bene che insomma chi non ha proposte deve fare queste cose qui. Va bene, grazie. E cittadini veneti, attenzione, monitorate, questa l'avete sentito chiaramente qual è la proposta di legge, staremo a vedere quali saranno gli effetti se sono confermati quelli che diceva il consigliere Reolon, cioè di efficienza e risparmio. Grazie intanto, buona serata. Buonasera, grazie a voi. Buonasera. Allora, 19.40, riprendiamo con i vostri interventi all'824-00-24, dove andiamo? Alberto che ci chiama da Reggio Calabria, un po' lontano dai problemi del Veneto, però insomma, forse buonasera. Ci sono anche lì le comunità montane, perché c'è la montagna in Veneto, in Calabria. Ormai per fare la comunità montana bastano 100 metri, sì, sono tutti comunità sì, montane. Sì. Io ho seguito la conferenza stampa di Svalzi e vabbè, ho detto tutti possono sbagliare, era meglio se non la faceva, un bel tacere non fu mai scritto. Poi ho sentito anche quello che ha detto l'onorevole Petrucci. Io un anno fa, e che sarà il candidato leader, adesso metaforicamente, leader dell'antidoping, io l'anno scorso ho avuto la verifica fiscale, ho un'aziendina discreta che malgrado i tempi non va male, e ho visto che il maresciallo si soffermava un po' troppo su alcune fatture, senza stargli tanto a far storie, gli ho detto maresciallo, queste qui non sono molto giuste perché mi occorreva alzare i costi perché non mi hanno pagato, ho dato le mie giustificazioni. Ah, cioè lei ha ammesso subito, prima ancora che facessero le indagini. Era inutile stare lì a difendersi da una cosa che sarebbe stata indifendibile. Ho patteggiato due settimane fa 8 mesi, fortunatamente sono incensurato per cui non li fa. Pena, ho pagato la multa e adesso vorrei attraverso voi candidarmi a leader della lotta all'evasione fiscale se mi appoggiate presso il ministro, perché se questa è la logica, che un dopato che ha fatto quello che ha fatto questo signore imbrogliando tutti, Petrucci, che se non sbaglio è onorevole, sostiene questa ipocrita frase che dice leader dell'antidoping in questo paese di buonismo, io desidero che voi mi appoggiate come leader della lotta all'evasione fiscale. No, guarda, perché io non l'appoggio per niente, no? Non l'appoggio per niente, perché così come non vedrei per niente bene Schwarzer testimone dell'antidoping. Infatti, certo, è evidente. Evidente. Senta, ma ci tolga qualche curiosità, 8 mesi per quant'era l'ammontare di queste fatture false, se ce lo può dire? 300.000. Insomma. Sì, ma poi dopo tanti anni avevo avuto una necessità, ho commesso, speravo che andasse bene. Ma in che senso la necessità? Cioè aveva, voleva far tornare i conti per pagare un po' meno tasse? Sì, non mi avevano pagato alcuni clienti, volevo recuperare, ho immesso delle fatture gonfiate, ma è stato uno sbaglio, ma per l'amor di Dio, non, però non faccio conferenze stampa, nessuno mi propone leader come me, tanti altri. Trovo questa faccenda Svarz pietosa, ridicola, ipocrita, poi magari sbaglio, però ecco, io mi sento di fare il leader della lotta all'antievasione con questa logica. Raccogliamo la sua provocazione. Cosa produce la sua aziendina, che va benino, come diceva lei? Come? Che cosa fa la sua azienda? La mia è un'azienda di pubblicità e non va male, non va male. Ah, un'azienda di pubblicità che non va male, complimenti, perché il momento del mercato non è che sia dei migliori. Noi facciamo maxi teloni e per il momento, adesso lei non mi vede, ma mi sto toccando e speriamo che non vada male, insomma, ecco. No, mi scusi, non volevo insinuare questo. E poi un consiglio, già che ci sono, un consiglio al ministro Di Paola, stasera andiamo in grande. In Sicilia sta bruciando tutto, basterebbe comprare un F-35 di meno, che costano 12 miliardi l'uno, e comprerebbero 40 Canadair, però forse stiamo mettendo troppa carne al fuoco. Sicuramente è vero quello che dice lei, come no? Una cosa incredibile, sono gli aerei più obsoleti, più antitutto, 12 miliardi l'uno, qui sta bruciando tutto perché mancano i mezzi, hanno abbassato i fondi da 340 a 200 milioni, e insomma è un bel paese. Sa cos'è? Che per una cosa eventuale come la guerra, che per fortuna non si fa mai, si spendono tanti soldi e non si riescono poi a trovare i soldi per delle cose concrete e reali come questa degli incendi, per esempio. Sì, la guerra la vinceremo senz'altro, perché abbiamo dimostrato che in quanto a cecchini, a tiratori, siamo primi su tutto. Alberto è in forma incredibile, ma lei non è calabrese però? No, io sono fiorentino. Perché dalla Io a Milano sono... ma sono fiorentino, però ormai di Firenze non c'è più niente. Ma io ho letto Reggio Calabria o ho letto mai? Ah, lei è in vacanza? Sono in ferie, sono, sì. Ah, non l'avevo capito. Perfetto. Sì, anche gli evasori vanno in ferie. Soprattutto loro, perché hanno più soldi in tasca poi. Beh, adesso non... Qua se l'è andata a cercare. Se no sembra che io voglia fare il gradasso, niente. È solo che sentire certe cose dagli onorevoli è stucchevole. Ma lei quando poi ha patteggiato, perché giustamente ha detto non stiamo qui a far tanto perdere tempo. Ammettendo il fatto, sono stato denunciato per utilizzo di fatture. Ma secondo lei in Italia c'è una persecuzione fiscale, come dicono alcune imprese, come dicono alcuni imprenditori, o si fanno i controlli che vanno fatti e basta? Ma la parola persecuzione la usano troppi, fiscale e giudiziaria. Io ho una grande esperienza in un altro settore di tanti anni fa. 30 anni fa facevo un lavoro e lavoravo per i sindacati delle imposte dirette. Bastava telefonare alle aziende e dire buongiorno, le imposte dirette di Milano pubblicano un giornalino, si abbonavano tutti, per cui o il sistema fiscale è oppressivo oppure siamo tutti delinquenti. Però sarebbe un discorso molto lungo. Va bene, buone vacanze. Grazie. Alberto, buona serata. Grazie, buona serata anche a lei. Paolo da Milano, buonasera. Buonasera Maurizio. Eccoci qua. Io vado su un argomento che probabilmente è un pochino più ostico. Sì? Che è la legge elettorale in Italia, facendo una premessa abbastanza semplice. Mi corregga se sbaglio, quante leggi elettorali sono state cambiate negli ultimi 20-30 anni? 5, 6? Dovremmo essere giù di lì. Non lo so, no, forse 5 o 6 no, secondo me no, non è stata 4, cambiata, 5, vabbè, è diventata una cosa della Seconda Repubblica, perché prima avevamo il proporzionale fisso per molti anni, poi è diventato stato referendum, è diventato un tema, fra l'altro è un tema importantissimo sicuramente, perché condiziona tutto. Sì. Però più che il numero dei cambi, io vorrei focalizzare una cosa che a me sembra completamente distorta. Sono i segretari dei partiti politici a modificarli in Parlamento. È come dire, i calciatori di Serie A e Serie B si fanno i loro regolamenti. Non sarebbe più giusto dare in mano ai cittadini, alla Corte Costituzionale, a un collegio di saggi e non ai politici il sistema elettorale? Domanda. Cosa ne pensa lei? Ma non lo so, guardi, il fatto è questo, che il sistema elettorale è fondamentale, importante, da lì nasce tutto il dibattito politico, perché determina chi va in Parlamento e anche il livello di governabilità di un paese come l'Italia, basso rispetto a altri paesi come l'Inghilterra, la Francia o la Germania. Però è una materia anche molto tecnica e quindi bisogna saperci mettere le mani. Per cui non... ci vorrebbe che i parlamentari facessero il loro lavoro responsabilmente, forse un'assemblea costituente, non lo so, una fase costituente. Certo è brutto lo spettacolo di assistere ad ogni legislatura al tentativo di modificare la legge elettorale all'ultimo per condizionare l'esito dell'elezione. Questo è uno spettacolo, dal mio punto di vista, avvilente proprio del dibattito politico italiano degli ultimi anni. E quindi non so se ho soddisfatto la sua curiosità. Ce l'abbiamo ancora? Sì, mi sente? Sì. Lei conosce un qualsiasi settore del mondo finanziario, imprenditoriale, che sono gli imprenditori o sono i players a farsi le regole? No. Non c'è nessun settore. È come se un imprenditore potesse stabilire le regole fiscali. È chiaro che le faccio a vantaggio mio. Ovvio. Ma sa, il Parlamento fa le regole in generale e questo è il gioco, fa parte del gioco e quindi fa anche quella regola lì, però sono il massimo organo democratico è quello e quindi è giusto che lo facciano loro, secondo me. Dovrebbero farlo responsabilmente nell'interesse del paese, questo è un altro paio di maniche. A fronte però di tutti questi cambiamenti mi sembra ovvio che non sono capaci di fare una legge pro Stato, pro cittadini. Va bene, punto. Non lo so, sentiamo poi cosa ne pensano anche gli ascoltatori di questo suo punto di vista. Grazie, buona serata. Noi ce lo immaginiamo così, Mimmo Turano, presidente della provincia di Trapani, che lotta per raggiungere un obiettivo, una missione impossibile, salvare la sua provincia dall'accorpamento, dalla soppressione, dal riordino, come diavolo lo vogliamo chiamare. Buonasera Turano. Buonasera a lei e buonasera alle persone che ci ascoltano. Lei è impegnato, lei uno, deve essere uno combattivo, perché insomma di fronte a questa cosa del riordino c'è chi lotta e c'è chi non lotta. Lei lotta? Beh, all'ultima goccia di sangue, perché penso di difendere una causa giusta. Qual è la causa giusta? Ce lo spieghi, perché io per esempio non lo capisco per niente qual è la causa giusta in questo caso. È quella di mantenere un ente come la provincia di Trapani che rischia la soppressione perché sembrerebbe mancano meno di 30 chilometri quadrati, meno di un fazzoletto di terra. Cioè lei dice per un'antichia veniamo soppressi. Mi piace questo termine, lei fa capire a tutti, no, perché che parla con un siciliano verace, è vero, per un'antichia veniamo soppressi. Perché è vero che ci sono casi dove per un attimo si passa da una situazione al suo opposto e può sembrare una beffa, però io dico, adesso poi lei ci spiegherà cosa ha in mente di fare, ha comprato pagine sul giornale, vuole annettersi una... Menfi vuole annettersi. No, non ho comprato nessuna pagina e non voglio annettere nessuno, voglio costruire. Allora, non ha comprato una pagina mezza pagina sul Corriere per fare un appello? Guardi, non è proprio così. Il Corriere della Sera ha fatto un'edizione speciale sul Corriere del Mezzogiorno, sì. E io ho avuto la possibilità, con un messaggio promozionale, spendendo una cifra molto modica, di far sapere qual era la mia idea sul riordino delle province. Quanto modico, se possiamo permetterci? Volentieri, credo 990 euro IVA compresa. Allora modico, beh sì, 1000 euro per una battaglia come questa, cosa vuole che sia? Compreso, IVA compresa. Sì. Senta, ma spieghi ancora la ratio di questa sua battaglia, cioè il motivo, perché insomma le province vanno riordinate, vanno accorpate, ci sarà chi decade, ecco, su questo siamo d'accordo, già mi sembra un ottimo punto di partenza, però perché dovrebbe sopravvivere Trapani e non, che ne so, Agrigento o un'altra provincia, Siracusa, a fianco lì? Le dico con assoluta puntualità, Io non sono solo d'accordo sulla, sulla riordino delle province, sono favorevole perché penso che il paese vive un momento difficile di crisi economica e di, ahimè, sprechi nel mondo della politica, e un riordino sugli enti locali è indispensabile. Da qui a fare un ragionamento, come dire, matematico, però ne corre. La provincia di Trapani è una provincia che ha una popolazione di 450.000 abitanti circa, quindi rispetto al primo parametro stabilito dal decreto o dalla legge sullo spending review, ha un territorio di la stessa legge prevede che ci voglia un territorio di 2.500 km quadrati e noi ne abbiamo 2.470. Sì, sì, questo ce l'ha già detto. Però mi scusi Turano, ma sa quante altre situazioni limite ci sono? Cioè, se dovessimo seguire questo concetto, forse metà delle province non dovremmo abolirle. Che male ci sarebbe se voi confluiste in una provincia più grande? E glielo spiego, noi riteniamo di aver ottenuto dei risultati che sono indiscutibili in termini di efficienza e in termini di buona gestione. Guardi che qua c'è un siciliano che l'ascolta dall'altra parte di regia, cioè abbiamo il regista che è siciliano, quindi attenzione a quello che dice, perché lui può testimoniare. Guardi, Palermo però, quindi non c'entra nulla in realtà. E allora se c'è un siciliano lì che mi ascolta, sì, sa bene che in termini di servizio fare confluire la provincia di Trapani con quella di Palermo o di Agrigento sarebbe un danno incalcolabile, e le spiego perché. Perché? E poi noi riteniamo di essere un ente virtuoso, e se lei mi dà il tempo le spiego perché. Addirittura un ente virtuoso, prego. Come no, siamo l'unico ente, uno dei pochi, non l'unico ente, ad aver fatto un'analisi di bilancio attenta e aver estinto tutti i mutui che avevamo ammontanti a circa 30 milioni di euro. Siamo l'unico ente ad avere una partecipazione molto alta nella gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, che è il primo aeroporto in termini di crescita nel mondo. Siamo nel mondo, il primo aeroporto in termini di crescita nel mondo. Vabbè, ma questa è fantastica. Guardi. Ma come fa a saperlo, scusi? Lei ha i dati di tutti gli aeroporti del mondo. Capisco che la mia le sembra un'esagerata vanteria, invece non è così. Consigli esagerata, proprio consulti i dati di Assaeroporti e vede qual è l'aeroporto che è cresciuto di più nell'arco dell'ultimo biennio o triennio. Ma in Italia forse, non nel mondo. No, non è proprio così. Noi siamo passati da 357.000 passeggeri a quasi 2 milioni di passeggeri. E sa perché? No. Perché abbiamo costruito un accordo di collaborazione con la Ryanair, che è la compagnia low cost sicuramente leader nel mondo, lo ribadisco. Sì. E abbiamo collegato Trapani con 45 capitali europee. Però non è che se si abolisce la provincia di Trapani risparmiando quello che si risparmia, che è giusto risparmiare, si chiude l'aeroporto. Non è così. Cioè, guardi, fino a quando noi controlliamo il 49% dell'aeroporto, siamo sicuri che questo territorio vedrà funzionare bene questa struttura. Se dovessimo andare con Palermo, non mi stupirei se l'amministrazione di Palermo dovesse pensare dapprima di incrementare l'aeroporto di Palermo e poi pensare a Trapani. E le dico di più, sono stato costretto a comprare le quote che la società di gestione dell'aeroporto di Palermo, la GESAP, deteneva all'interno dell'Airgest, prima di sottoscrivere l'accordo con Ryanair. Quindi veda, io voglio difendere il mio territorio, non voglio difendere la mia poltrona, e non so se da qui a poco non sarò più presente alla provincia, ma non c'è dubbio che la provincia di Trapani, che è una provincia che si è tolta il 90% dei debiti, che ha gestito alcuni servizi in termini di infrastrutture aeroportuali e non solo, che ha ottenuto finanziamenti per 150 milioni di euro per completare l'asse autostradale che va da Mazara a Trapani. Credo che abbia motivo di lamentarsi del fatto che con un provvedimento, come dire, matematico... È un provvedimento di legge. Turano, dica la verità, lei gli rode di perdere il posto di presidente della provincia, dica la verità. No, vede, perché le vuole banalizzare a tutti i costi il mio ragionamento? Perché? Non so. Guardi, io non sono attaccato alla poltrona. Nel 2013 certamente non sarò ricandidato a presidente della provincia. Anzi, le dico di più. Perché non ci sarà più la provincia di Trapani. Non è proprio così, non è proprio così. Perché questo non lo sappiamo, questo ancora non lo sappiamo, questo è certo. Ecco, sì. Però senta, mi spieghi una cosa, perché al di là poi degli scherzi, no? Ci sarà una, la legge prevede che ci sia una sede regionale, proprio regionale, quindi in Sicilia, credo che anche la Sicilia che è stato speciale, ma il ragionamento sia lo stesso, dove si deciderà poi effettivamente gli accorpamenti. Infatti, la legge prevede che l'Assemblea regionale siciliana farà una legge ad hoc stabilendo quali sono gli enti che devono rimanere. Io vorrei arrivare all'appuntamento di quella con quella legge, sì, rispettando i parametri nazionali. Cioè però mi spieghi la questione di Menfi, perché da qualche parte Menfi è uscito che voi volete tac. No, non è proprio così. Lei non conosce bene la storia della provincia di Trapani. Per niente, non la conosco per niente. Però ho letto sul giornale così. Fino al 1960 il comune di Camporreale faceva parte della provincia di Trapani e ha chiesto di trasferirsi in provincia di Palermo e noi, come dire, noi, gli amministratori dell'epoca, sono stati d'accordo. Dico, al danno la beffa, il territorio lo avevamo, un pezzo lo abbiamo ceduto, ora ci troviamo a correre il rischio di essere, come dire, riordinati, chiamiamo questo termine. Io non sono... Le guerre puniche, torniamo... No, le guerre puniche no, perché veda, in Italia spesso si usano pesi e misure diverse. Lei sa che, per esempio, l'area lagunare di Venezia, che comunque diventa area metropolitana, è stata computata nel territorio, è l'area lagunare, l'unica area lagunare della Sicilia, che è lo Stagnone di Marsala, non è stato computato. Vabbè. Qualche ingiustizia c'è sempre. Intanto grazie e buona avventura per la vostra battaglia per non accorpare la provincia di Trapani. Mimmo Turano, La Zanzara, 20 in punto. Tra poco i titoli dei telegiornali, vediamo le notizie riassunte dal TG1 e dalla 7. Intanto Renzo dalla provincia di Bologna, buonasera. Volevo collegarmi con il discorso del referendum della signora di Prato. Io ho il timore che si sia perso di vista il discorso, la proposta vera del taglio delle spese dei parlamentari, cioè la riduzione dei parlamentari del 50%, perché se andiamo a smarrirci, a guardare e a cercare di ridurre indennità o buon impasto o roba del genere, come ci hanno insegnato malamente i Rizzo del Corriere della Sera, perdiamo di vista il vero problema. Qui perché ci hanno insegnato malamente i Rizzo del Corriere della Sera? Perché il vero problema è quello di ridurre, di dimezzare i parlamentari. Perché quello è il vero problema e quell'altro perché no? Perché dimezzando i parlamentari si dimezzano le spese, non si va a ridurre il pastino o le indennità. Ma perché a lei le farebbe schifo ridurre anche le spese del costo del singolo stipendio, se come appurato in parte anche dalla Commissione è... Perfetto, un tantino più perfetto, alto di quello europeo, vero, le farebbe schifo? Il vero taglio è dimezzare i parlamentari. Ma il vero taglio per lei, sono tutti tagli, cioè non è che c'è un vero taglio e un finto taglio, ci sono tanti tagli possibili. Mi fa parlare, il 50% è 50%, non è un ridurre un'indennità qualsiasi, è un 50%, questo ci avevano promesso, è 30 anni che ce l'ho promesso, lo diceva Sant'Almazzi prima di andar via. Ma io non ho capito perché nell'attesa che facciano il 50%, non lo faranno mai, c'è un'iniziativa referendaria da perfetto, questo punto di vista e lei se la prende con loro, ma ha sbagliato sono obiettivo. Allora non ho capito, non abbiamo capito. D'accordo, purché non si smarrisca la vera proposta, quella di dimezzare i parlamentari, come quella di dimezzare i dirigenti dello Stato. Negli ultimi 10 anni sono stati più che raddoppiati, generali e colonnelli delle forze armate e delle forze dell'ordine. Nessuno dice niente. Quando si parla di province, si deve dire, anche il signore di prima, deve dire che prima di tagliare le province bisogna stabilire dove mettiamo tutti i generali che sono stati fatti. Vado a vedere a Milano quanti generali ci sono, della finanza, dei carabinieri, eccetera. Ce n'era uno nel 2001, ce n'era uno, adesso ce ne sono 4 o 5 di ogni corpo. Va bene, grazie Renzo, grazie. Fermiamoci un attimo qua perché avevamo annunciato i titoli, non c'è il TG1, c'è il TG5 e poi andiamo a Londra perché tra poco sulla pista di atletica ci sono anche due italiani. monito della BCE, i governi si tengano pronti a intervenire con lo scudo antispread. In Italia elevato rischio di insolvenza per le aziende. La reazione dell'ABI, banche italiane solide, Confindustria, lo Stato paghi i suoi debiti. Il governo prepara il piano antidebito, palazzi storici, grandi caserme e perfino un castello. Tutto in vendita al miglior offerente, con un incasso per lo Stato di 1,5 miliardi di euro ricavati dalla dismissione dei primi 350 immobili. Divampa la battaglia ad Aleppo, seconda città della Siria. I ribelli uccidono il capo delle operazioni militari dell'esercito siriano. Diserta anche il capo del cerimoniale, il presidente Assad. Pilota e navigatore muoiono durante le prove di un rally nel Frusinate. La loro auto è uscita di strada, finendo in un burrone. Solo 2 settimane fa, altre 2 vittime al rally di Lucca. Decine di roghi dalla Toscana alla Sicilia. Paura a Roma, dove le fiamme hanno invaso la collina di Montemario. Addio al caldo afoso. Torna un po' di fresco. In Franciacorta, il via anticipato alla vendemmia. Arriva dal fondo l'unica soddisfazione olimpica del nuoto azzurro. Martina Grimaldi, bronzo nella 10 km di nuoto. I complimenti a Josefa Idem, quinta in finale a 47 anni. Occhi al cielo e pronti con i desideri nella magica notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Ma il picco massimo dello spettacolo sarà tra il 12 e il 13 agosto. Questo dunque il TG5. C'è una notizia che non abbiamo dato prima, la diamo adesso, e viene sempre dalla Germania, Italia-Germania. Lo Spiegel mette Berlusconi tra i 10 politici più pericolosi d'Europa. Ebbene sì, in compagnia di Marine Le Pen, del Fronte Nazionale, movimento politico che ha ottenuto parecchi voti a sfondo in passato soprattutto vagamente razzista, poco vagamente, adesso forse molto solo vagamente, movimento di estrema destra comunque, in compagnia Berlusconi nella classifica dei più pericolosi per l'Europa di Geert Wilders, vi ricordate, il leader del partito anti-islamico, anti-immigrato olandese, ma in compagnia anche di personaggi molto meno, diciamo, scandalosi a questo punto di vista, come il segretario della CSU, partito conservatore tedesco, Dobrindt, e un ministro delle finanze bavarese, Schröder. Insomma, Berlusconi mi pare sia il terzo tra i leader più pericolosi per l'Europa, secondo il settimanale Spiegel, che ha così ripreso la notizia che Berlusconi si potrebbe ricandidare alle prossime elezioni politiche. Cosa facciamo? Ah, abbiamo Dario Ricci da Londra. Dario, dove sei? Alla pista di atletica? Sì, altro che pista, qua è uno stadio olimpico, che con tutto il suo splendore, qua sulla destra vedo proprio il braciere olimpico con le sue 206 fiammelle, no Alessio? Pazzesco, bella emozione. Quali, ognuna delle quali rappresenta una delle nazioni presenti a questa Olimpiade. Davvero una bella serata, tra l'altro calda, e quindi sarà contento Usain Bolt, perché il caldo aiuterà sicuramente, come ricordavamo anche nel GR24 sì, con Enrico Pagliarini, aiuterà i suoi muscoli a fare dei grandi 200 metri, ma anche i suoi avversari chiaramente sono pronti, sono lì, 21.55 l'appuntamento. E gli avversari, Blake, l'altro giamaicano, Lemaitre anche, che si è qualificato però credo non in maniera brillantissima. No, è vero, Lemaitre che tra l'altro ma ha sorpreso rinunciando ai 100 metri, no? Ha concentrato tutta la sua attenzione sui 200, è l'unico bianco della finale, però ricordiamolo, anche l'anno scorso ai mondiali da EGU ha fatto cose veramente importanti, significative, il bronzo mondiale, e quindi sicuramente può essere la sorpresa in questa finale. Però senti Dario, del secondo e terzo posto, perché certo, Usain è quello dell'altra sera, non se ne parla proprio, diventerebbe il primo uomo nella storia delle Olimpiadi a vincere per 2 edizioni consecutive i 100 e 200 metri, tanto per dire che questa è una serata che potenzialmente è storica nella storia dei giochi. Sì. Senti Dario, si intravedono già le tutine azzurre dei due triplisti che tra qualche minuto dovrebbero essere nella finale del salto? Eccoli laggiù, sono dall'altra parte, proprio sull'altro rettifilo rispetto alla tribuna dove io mi trovo, si stanno riscaldando, tra l'altro soprattutto Greco, l'esordiente, ha detto, dice una pista questo, fatto tra l'altro da un'azienda italiana, in cui mi trovo molto molto bene, molto elastica, qualche motivo d'apprensione in più per Fabrizio Donato, ha avuto questa marcia d'avvicinamento alle Olimpiadi martoriata da un fastidio prima a tendine d'Achille, poi a un nervo della schiena, insomma qualche acciacco, ma sai, fatta la qualificazione, poi qua è il vento di Olimpia che ti spinge in mezzo. Senti, a quella tappia, quindi... Al di là del vento di Olimpia, che tu giustamente senti perché sei lì, quali speranze hanno, in base anche alle misure che hanno fatto in qualificazione, di arrivare in medaglia? Ma guarda, io ci credo, ci spero e ci credo, perché tutto sommato le qualificazioni, le misure ci sono. E poi soprattutto Greco è un saltatore imprevedibile, può arrivare ultimo magari facendo tre nulli o veramente può fare il colpo. Donato ha la sua grande esperienza che può aiutarlo a gestire questo momento, quindi perché non sperarci? Alla fine potrebbe essere davvero questa l'unica medaglia della nostra atletica. Intanto vedo una dichiarazione che mi rincuora della Grimaldi su Schwarzer, non so se è vecchia già di oggi o più recente, dice un cattivo esempio, basta, punto. Mi sembra, io personalmente mi trovo d'accordo. Dario, no, adesso non volevo tirarti in ballo con Schwarzer, perché sei lì in ballo con emozioni positive, è giusto pensare alle gare. C'è qualche altra finale interessante? Ma guarda, direi che i due appuntamenti più importanti sono proprio questi, i due in calendario che ho segnato col circoletto rosso in agenda, quindi poi per il resto ecco, veramente godibile anche la prova del giavellotto qui del Decathlon, che fa un po' da prologo all'intera serata, e poi il grande spettacolo sarà il pubblico. Non c'è, già nel venire c'erano tifosi, migliaia di tifosi imbandierati, bandiere inglesi, bandiere americane, insomma le nazioni dominanti nell'atletica. Penso dall'altro Living Standard, uscito un'oretta fa, come d'abitudine, titola che per l'acquisto degli ultimi biglietti disponibili file anche di 18 ore, quindi insomma Londra accidenti. Era partita un po' tiepida, ma poi si è riscaldata al fuoco olimpico, e sono prove da medaglia anche queste, 18 ore di coda per entrare allo stadio. Grazie Dario Ricci, buona serata, ti ritroviamo più avanti nei giornali radio per la cronaca della serata di Londra, la serata olimpica. Facciamo una pausa. La Zanzara. Eccoci rientrati in diretta, tra poco di nuovo all'800 24 00 24 i vostri interventi. Intanto titoli della 7. Nuovo allarme della Banca Centrale Europea, manca la fiducia nei confronti dei governi di Roma e Madrid. L'americana Goldman Sachs taglia addirittura del 92% l'esposizione sul nostro debito. Spagna e Italia sono a rischio contagio, scrive nel suo bollettino la BCE, che si dice pronta ad intervenire in modo rapido e pesante per congelare lo spread, che intanto scende a 441 punti. Angelino Alfano rilancia una possibile alleanza con la Lega per non consegnare il nord alla sinistra, spiega il segretario del PDL, ma Salvini lo gelano, grazie, corriamo da soli. Per le istanze del nord non escludo un dialogo con il PD, intanto Casini è il regista dei Filomontiani. Il Corriere della Sera rivela le visite in carcere a Bernardo Provenzano e ad altri boss da parte dell'eurodeputato Sonia Alfano e del senatore del PD Giuseppe Lumia. Scoppia il caso con le critiche degli esponenti del PDL e l'intervento del ministro della giustizia Severino, ma l'Alfano replica: un dovere di ogni rappresentante istituzionale cercare la verità. Dopo i casi Malinconico e Zoppini, il sottosegretario alla salute, Elio Cardinale, è indagato per aver favorito la figlia di un collega permettendole di vincere un concorso per ricercatore presso l'Università di Palermo. Secondo il settimanale Espresso, che pubblicherà domani l'inchiesta, per Cardinale è stato chiesto il rinvio a giudizio per truffa, falso ideologico, usurpazione di funzioni pubbliche. Josefa Idem si ferma a soli 3 decimi dalla medaglia di bronzo nella canoa K1 500 metri, ma dopo 8 Olimpiadi la sua carriera resta leggendaria. È stato bello sognare, ma ora mi fermo qui, dice la canoista. A Rio racconterò le gare degli altri. Dopo tante delusioni arriva la prima medaglia invece del nuoto. Martina Grimaldi vince il bronzo nella 10 km di fondo. Nuova giornata di bombardamenti e morte in Siria, ad Aleppo i soldati... Vabbè, sfumiamo i titoli lunghissimi della 7 perché alcune cose le abbiamo già sentite. Intanto dai tuffi, dalla piscina dei tuffi, 10 metri al primo giro di tuffi, l'italiana Noemi Batchi è in terza posizione. Sappiamo che tutto può cambiare, perché tutto poi passa attraverso le valutazioni dei giudici e i centesimi di punto che hanno già fregato Tania Cagnotto. Ci sono gli ascoltatori 349-238-6666. Aldo da Rocca che dice: non capisco questo accanimento su Schwarzer, oggi si dà una chance a tutti, assassini compresi, tipo Cesare Battisti, credo la meriti anche Schwarzer. Invece no, perché bisogna dare una... Lui, Schwarzer, la sua chance l'ha avuta dalla vita, che gli ha dato il dono di correre in quella maniera straordinaria, per un errore suo, tutto suo, l'ha buttata a mare. Che altra chance dobbiamo dargli? E non dobbiamo dare chance a nessuno di quelli che, secondo noi, ammesso che poi si ritenga ognuno in coscienza che Schwarzer abbia sbagliato. Se uno dice ha fatto bene, allora diamogli tutte le chance del mondo, ma se ha sbagliato, che altra chance dobbiamo dare? Io non lo so. Abbiamo il traffico? Sì. La Zanzara. Ascoltatori, abbiamo in attesa già un po' di persone, vediamo se riusciamo a sentirli tutti. Marco dalla provincia di Milano, prego. Buongiorno, io volevo interloquire in merito alle comunità montane, no? Sì. Allora, il discorso è semplicissimo. Con la scusa di avere delle comunità montane che nei piccoli paesi dovrebbero gestire e gestiscono in realtà rifiuti, acque, piccoli acquedotti, eccetera, eccetera, si dà la stura e la possibilità a tutta una serie di consigli di amministrazione delle comunità montane di sopravvivere. Se questi piccoli comuni, come si fa ad esempio in alcune zone qua del nord Italia, fossero e si accorpassero a delle municipalizzate, dei capoluoghi di provincia, avremmo sicuramente lo stesso servizio e parecchi consigli di amministrazione in meno, e soprattutto parecchie sedi in meno da gestire, perché ricordiamoci che non ci sono solo gli stipendi di questi signori da dare, ma ci sono le sedi, i riscaldamenti, gli uffici, gli affitti e tutta la manutenzione ordinaria di queste sedi, che normalmente sono state costruite in maniera mastodontica per avere e dato opportunità di mettere cemento a terra. Questa è un po' la logica che è stata fatta negli anni, ma deve essere una logica che deve essere radicalmente cambiata, altrimenti si va in malora tutti qua. Grazie Marco. Il secondo tuffo, la Batchi in realtà ha perso qualcosina, non so esattamente qual è la posizione in classifica, ma il tuffo non è stato premiato con un grandissimo punteggio. Prima era terza al primo giro, l'italiana, nel tuffo da 10 metri. Lillo da Palermo, buonasera. Buonasera, sono Lillo Ceran di Petrolia Sottana, provincia di Palermo. Allora, volevo allacciarmi al discorso sulla provincia di Trapani. Sì. Beh, da premettere che io staglierei tutte le province, perché anche la provincia di Palermo penso ci abbia delusi su questo fronte, penso tantissime province, perché sono soltanto incarichi politici e naturalmente che sicuramente andremo a risparmiare se tagliate tutte, non l'accorpamento. Ma la cosa che mi ha fatto un po' leggendo l'articolo su Trapani è che il signor Turano, il dottor Turano, presidente della provincia di Trapani, ha tirato fuori un decreto del 1817 emanato da Ferdinando I, re delle due Sicilie, con il quale veniva istituita in Sicilia le province sciogliendo gli incorporamenti territoriali identificabili nel Val di Mazzara e Val di Noto e nel Val Demona. Diciamo che questo mi ha proprio suscitato tanta amarezza su tenere la poltrona di presidente della provincia e tutti i consiglieri. Adesso basta, bisogna tagliare tutti questi enti inutili. Ma la cosa è più grave, che la regione Sicilia purtroppo è una regione particolare. Purtroppo non riusciremo mai a cambiarla questa Sicilia, perché anche i 90 deputati ne hanno fatte di tutti i colori. Le dico solo due cose: ancora i deputati siciliani hanno l'assicurazione che paghiamo pure noi contro punture di insetti, colpi di calore e le aggressioni, quindi per i pugni. Io penso che adesso dobbiamo smetterla, e la devono smettere tutti quelli che ancora vogliono mantenere le poltrone, perché adesso non dobbiamo pagare solo il più debole, ma devono pagare anche la politica. Ma la cosa più grave, sai, che tutti questi 90 deputati adesso si presentano nelle nostre zone, nelle nostre montagne, come se niente fosse, a fare passerelle e vetrine, naturalmente come se andassero a funghi, acchiappare voti naturalmente. Adesso la sfida dobbiamo cambiare. Andare a funghi questa. Io... sì, sono già si sono presentati in campagna elettorale, sì. Già due giorni fa due deputati sono venuti nelle nostre montagne a parlare di politica, cioè dopo che ci hanno massacrato. E anche Lombardo gli era dato, il governo Lombardo ha dato l'ultimo incarico, penso ieri, cioè già dimissionario, ma è stato dato un altro incarico di consulente esterno. Comunque a Turano bisogna dare almeno l'onore del fatto che sa bene la storia, è preparato, perché io ho detto le guerre puniche, lui è andato a ricercare tutti questi passaggi storici della sua provincia, e va bene. Grazie Lillo da Palermo, andiamo a Roma. Gabriella, buonasera. Sì, buonasera. Complimenti per il suo garbo. Perché ride? Vuoi dire il suo garbo e ride? Non lo so. No, perché io e altri ascoltatori immagino, sì, che aspettiamo le ferie d'agosto, perché finalmente la Zanzara è condotta da giornalisti veri. Io chiudo la parentesi. Basta con un'ambulanza, eccetera, eccetera. Senta, io stamattina ho firmato sul sito, sì, del Fatto Quotidiano, c'è una raccolta di firme per appoggiare il lavoro dei magistrati della Procura di Palermo che stanno indagando sulla trattativa Stat-Mafia. Sono una cittadina delusa dal comportamento del Presidente della Repubblica, delusa dal conformismo di molte testate giornalistiche, e penso che i cittadini debbano farsi sentire. Per questo io invito i cittadini, anche chi non acquista il Fatto Quotidiano, ad andare sul sito e a firmare. So che già molte firme ci sono state, e lei come giornalista saprà che ci sono anche dei costituzionalisti che hanno una posizione diversa da quella, ripeto, conformista che c'è un po' in giro su questo. Vabbè, insomma, c'è un dibattito, ci sono varie posizioni, lei, sì, ha fatto quell'appello e va, sì, bene, va benissimo così. Però Gabriele, questi magistrati, insomma, vanno sostenuti perché non vanno lasciati soli. È importante. I magistrati vanno sempre sostenuti quando fanno il loro lavoro, insomma, assolutamente, perché poi sappiamo che, insomma, rischiano sulla loro pelle. Soprattutto quando si parla di magistrati siciliani, questo bisogna sempre ricordarlo. Restiamo a Roma. Mario, buonasera. Sì, buonasera. Senta, se posso vorrei interloquire anche con gli interventi precedenti, se me lo consente, in particolare quello della provincia, del presidente della provincia, che, sì, ci ha dato tanti bei numeri, però si è dimenticato di dire A, quanto guadagna lui, B, quanto guadagnano i consiglieri provinciali di quella provincia, C, quanti dipendenti ha quella provincia e soprattutto quanti dipendenti ha rispetto alla popolazione e rispetto ad altre province, magari, guarda caso, del nord, dove probabilmente c'è la stessa proporzione che c'è fra la regione Sicilia, 20.000 dipendenti, con una popolazione che è la metà della Lombardia, che ce n'ha solo 6.000. Detto questo, volevo parlare un attimo anche di quell'altro che ha fatto tanto lo spiritoso sul caso Schwarz, dicendo che lui è un evasore e vuol diventare il... Però anche lui si è dimenticato di dirci alcune cose. Primo, se quell'evasione che ha fatto era la prima, se è stata l'unica e se non ce n'ha in corso altre. Beh, lei c'ha un elenco di domande per tutti, eh. Sì, vede, quando uno sente, sì, io l'ho sentito tutta la trasmissione. Però bisogna dire che l'ascoltatore qualcosa, cioè, ha detto, no? E poi era ironico, chiaramente. Ha fatto un'evasione, sì, però non ci ha detto, cioè, era ironico ed non era tronfio, era come dire, non mi metto a fare il paladino, sì, del fisco, io che ho pagato patteggiando, non lo faccia nemmeno. Sì. È una cosa diversa. Come? Perché, attenzione, Schwarz ha detto: io smetto di fare l'atleta perché voglio fare una vita normale. Quindi qui stiamo discutendo di una cosa che lui non ha chiesto, tanto per cominciare. Cosa non ha chiesto? Non ha detto voglio fare il testimonial, voglio... Ah no, certo, certo. Lui ha detto smetto, però il signore che ha arrivato il fisco non ha smesso di fare l'imprenditore, ha fatto i suoi bravi conti. Ma guarda, mi sembra un paragone che non ha senso. Non ha proprio senso. L'imprenditore ha pagato il suo debito col fisco e continua a fare l'imprenditore, si mantiene così. Schwarzer è stato squalificato E quindi di cosa sta parlando? Non... È perché l'imprenditore doveva essere squalificato pure lui, perché scusi tanto, una truffetta da 300.000 euro, non è che sono tanto pochi. Ma lui ha pagato il suo debito, cosa è squalificato? Lui si mantiene con quell'impresa, lui è, guardi, e le persone che lavorano per lui, ha pagato il suo debito col fisco, cosa c'entra? Anche questi sono professionisti dello sport, perché lo sport a quel livello si può fare solo a livello professionistico, dedicandosi completamente a quello, punto. Ma non è questo il punto. Io dico soltanto che mentre Schwarz, e qui ecco, io avevo telefonato per questo, a dire la verità, ha fatto delle affermazioni che nessuno ha sottolineato, almeno non mi risulta. Cioè lui ha detto che poteva eludere i controlli perché nell'arco di 18 mesi, io l'ho sentito alla conferenza, un atleta può evitare i controlli per due volte senza nessuna sanzione. E quindi? E questa è la cosa molto grave, secondo me, perché se lui avesse risposto da dentro casa non c'è nessuno, perché questo è il discorso, uno bussa, dice c'è nessuno e se ne vanno, lui evitava il controllo, cosa che magari l'imprenditore non poteva fare perché c'aveva il maresciallo e non lo poteva evitare, ma lui avrebbe potuto evitarlo. E non l'ha fatto, e sa perché non l'ha fatto? Perché io ho avuto questa sensazione che lui volesse essere fermato. Vabbè, ma qua andiamo sull'interpretazione psicanalitica, e che può darsi che sia così, però siamo a un livello, secondo me, che non lo so, parliamone, ma non adesso, che mancano 4 minuti per esempio alla fine del programma, e poi non ora che siamo a caldo di una vicenda che è molto più grossa dell'interpretazione psicanalitica, le sue lacrime. Che lui non ce la faceva più a fare il fidanzato, ma io ho già detto ieri sera, ma chi se ne frega di tutte queste robe qua, mi scusi. Comunque Noemi Batki intanto è scivolata al 6° posto, mi pare, cioè si è tuffata, mi fanno cenno dalla regia. Abbiamo ancora un po' di tempo, poco a dire la verità. Chi sentiamo? Mariano dalla provincia di Latina, sempre. Buonasera. Sul caso Schwarzer, mi sa, non solo per il caso del doping, no, per quanto riguarda il doping volevo semplicemente dire che la proposta di fare come simbolo, di nominare come simbolo questo ragazzo per la lotta antidoping potrebbe essere paragonata come se nel calcio mettiamo come simbolo alla lotta delle partite truccate Masiello, facciamo un esempio, cioè mi sembra una butard che un'altra cosa, non è proponibile, diciamo. Per quanto riguarda Petrucci dovrebbe parlare meno e valutare un fatto, l'Italia non ha vinto neanche una medaglia nei sport come atletica e come nuoto, che sono, diciamo, gli sport più importanti delle Olimpiadi, e questo andrebbe, diciamo, analizzato invece di vincere medaglie, diciamo, minori, anche se poi la medaglia olimpica ha comunque sempre un valore. Per quanto riguarda, dunque, io faccio proprio un'analisi del movimento sportivo. Fermiamoci qua, non c'è tempo purtroppo per fare l'analisi. Grazie a lei. Buonasera. E agli altri ascoltatori che sono in attesa. Li sentiremo domani a partire dalle 18. Buona serata a tutti. Radio 24. La passione si sente.